È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, 18:35, caro Parenzo, pronti qui dagli studi di Milano, un'altra puntata della Zanzara. Buon inizio settimana, direttoressa. Ma perché la voce così bassa, scusa? Eh? Perché la voce così bassa? Non cioè... ti sento, oggi non si può dire non ti sento. Dai, la voce è bassissima, come al solito, anche se sei qui, una voce bassa, inspiegabilmente bassa. Ti faccio riprendere subito con Mario Borghezio, al seguito di Bossi durante il fine settimana. Accordi con Roma? Sentiamo. Magari qualcuno si è un po' adattato, si è un po' convinto che si possa risolvere i problemi d'accordo con Roma. Manco per il cazzo, i nostri problemi si risolvono bruciando Roma ladrona, combattendo tutti i giorni con le nostre bandiere, rompendo i coglioni, facendoci rispettare sul nostro territorio. Ma ha rimesso, ma ha riacceso, direttorissimo, ma ancora, i ancora. Coglioni sul territorio, forza Lega con Bossi, Lega, bruciando Roma. Un attimo che abbiamo un grande ospite già pronto, è un reghista doc che non si sa bene se è ancora dentro o fuori dalla Lega in realtà. Ancora Borghezio nel fine settimana. Dobbiamo reagire, perché questo ci ha insegnato quando siamo entrati nella Lega, Bossi e quelli che erano con lui. E io ci ho creduto perché era gente coi coglioni. Noi dobbiamo tornare a essere quelli che fanno paura a Roma ladrona, altrimenti facciamo la maglia, non siamo dei combattenti. Gasparri, attenda, ospite, sì, non si stufi non di queste cose. Non è presente qui, è collegato per telefono, perché la radio si fa anche per telefono, vero, come sai, no? È vero. Gasparri, la rosa tricolore di Volpe Pasini, quel piano per Renzi Premier, sì, di cui si è parlato moltissimo, è una fesseria piramidale. Qui c'è una spaccatura tra i colonnelli che vogliono Alfano Premier, le primarie, e Berlusconi che in realtà non le vuole queste primarie, certo. O comunque dite, volete presentarvi col PDL? Presentatevi, vediamo quanti voti siete capaci di prendere. Gasparri. Io parlo di progetti seri, quelli scritti sulla carta sarebbe bello, sono fesserie piramidali. Parlo di rose, di altre cose. E c'hanno paura, eh? Travaglio, tifo contro l'Italia. No, io fin dalla prima partita tifo contro l'Italia, perché spero che questa squadra, espressione del mondo del calcio, di calciopoli e delle scommesse clandestine, non vinca, per non far dimenticare lo scandalo come è avvenuto nel 2006 quando ci fu l'amnesia col trionfo della Coppa. Questa squadra è espressione delle scommesse clandestine, una puttanata pazzesca. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, con noi da Treviso, l'unico sceriffo italiano, no, Giancarlo Gentilini, buonasera. Saluti a tutti, ragazzi e ragazze. Come andiamo? Gentilini! Sempre meglio. Se... Qui c'è Parenzo, se lo ricorda, sta? Quando è venuto a rompere le scatole su a Treviso, Parenzo, sì. Sì. Come andiamo? Beh, potrebbe andare molto meglio. Mi dicono che si vuole ricandidare. No, dai, qui facciamo così chiarezza. Chiarezza, sì. Io non mi ricandido. È il popolo che vuole che io mi ricandidi. Quale popolo? Hai, scusa, capito? Quale popolo? È, cioè, scusi è un questo attimo. Grido di dolore che nasce dal mio popolo. Mi dicono, signor sindaco, se lei non si ricandida, è finita la città di Treviso. Ma come è finita? Quindi io sono come il re galantuomo, no? Il grido d'Italia è... E vengo in aiuto ai miei cittadini. Scusi un attimo, ma perché fino adesso, scusi Gentilini, ma perché è stata amministrata male? Gobbo c'è? C'è Gobbo, il suo amico Gobbo. Beh, ma Gobbo ormai è fuori dai giochi, no? Perché ha fatto i due mandati e quindi... Basta. Basta. A casa adesso Gobbo. Io l'altra volta ho lasciato lo spazio al sindaco Gobbo. Sì. Perché io, se avessi partecipato come sindaco, non avrei voluto compagni di viaggio, perché io sono dell'avviso che uno solo deve comandare. Beh, questo uno solo deve comandare. Hai capito? Questo hai capito. Scusi un attimo, ma questo... Gobbo allora ha governato male Treviso? Ma per prendere una decisione bisogna avere l'imprimatur dei vertici, dei sottovertici, dei paraculi, dei portaborse. Quando decido una cosa, la decido io e basta, dopo aver consultato le persone che io ritengo siano in grado di dare un giudizio. Certo, per cui ci vuole, per governare una città, in realtà ci vuole il pugno di ferro di una persona. Certo, pugno di ferro in un guanto di velluto, l'ho sempre detto. Certo. Ma io sotto il guanto di velluto voglio le punte d'acciaio, hai capito? Ma per chi le punte d'acciaio, scusi Gentilini? Perché per è chi? Finito il tempo del buonismo, della tolleranza, le etnie criminali e criminaloidi stanno imperversando in tutta l'Italia, quindi ci vuole un pugno di ferro. Lo Stato deve tornare uno Stato di diritto, per chi ha perso questa qualità. Scusi un attimo Gentili, lei l'altro giorno a un matrimonio ha fatto un discorso anche su troppe cose gialle e nere che vede. Com'era questo discorso? Non me lo ricordo bene. No, io avevo detto che quando io celebro un matrimonio dico a tutti agli sposi che ho bisogno di bambini della mia razza, della mia... Come hai razza? Capito? Perché io sono convinto che soltanto i miei cittadini sono in grado di portare avanti gli insegnamenti, i principi, gli ideali del nostro popolo. E invece? Gli altri hanno altre civiltà e quindi sicuramente ci vorranno secoli perché si possano integrare. Io pretendo che la mia gente sia la portatrice di quei grandi valori dei nostri avi. Scusi un attimo, Gentilini, ma lei fra Italia... Io preferisco la mia gente. Sì, ma lei tra Italia e Germania, per esempio, tanto per andare a un discorso più terra-terra, insomma, tra Italia e Germania, per chi tifa giovedì? Per? Fra Italia... Giovedì? Sì. Italia. Italia. Sì, è chiaro, io sono juventino, nato, appena ho messo fuori la testa, ho detto, viva la Juve! Hai capito? E quindi... Tra Italia e Germania lei tifa, no, siccome ci sono molti leghisti, molti leghisti in che campo, se... In campo sportivo io tifo Italia. Italia. In campo politico a me va bene la dittatrice Merkel. Addirittura. Perché l'ho sempre detto che la Germania ha comandato, comanda e comanderà ancora. E le piace? E lei il Deus ex machina dell'Europa, gli altri sono mammole, portaborse, hai capito? Mammolette. A lei piace la Germania che comanda? A lei piace? Certo, mi piacciono le marce militari tedesche e austriache, mi piacciono le marce del mio tempo, hai capito? Quali? Cioè, quelle del nazismo, dice lei? Sì. Dei miei tempi di balilla, di avanguardista. Quando noi, la gioventù balda e forte, la maschia gioventù, camminava per le strade, hai capito? Cantando le nostre canzoni di guerra. E quali, canti, quali erano queste canzoni di guerra? Italiani? Quali erano queste canzoni di guerra che lei si ricorda, sindaco? Bene, Jarabub, Camerata Richard... I sommergibilisti, battaglioni del Duce, inno all'Italia, marcia reale, perché la marcia reale, vedi, io quando suonano l'inno dei Mameli, io mi alzo in piedi dovunque io sia e sto sull'attenti. Sì. Quando c'era la marcia reale, c'era l'obbligo di fermarsi, stare in piedi, se eri seduto a mangiare una pizza... sì? Dovevi alzarti, adesso mangiano la pizza, suonano l'inno di Mameli, se ne sbattono le palle. Ah, sì, una quello. Volta stare in piedi, perché l'inno, la marcia reale, sì, rappresentava l'Italia. Ma perché parla tutto così lui? Scusi, come Gentilini, l'inno di Mameli rappresenta l'Italia. Certo, ma lei insomma, sì, vorrebbe un ritorno, diciamo, a quell'epoca lì. Un ritorno. No, io vorrei un bel ritorno. Io ho un Vangelo, il Vangelo secondo Gentilini. Questo non è lo quello, conosciamo. Non c'è dubbio. È un Vangelo apocrifo questo, evidentemente. Il Vangelo dice: ordine, disciplina, sì, rispetto delle leggi. Ecco, sì. Prima noi, dopo gli altri. Ma gli altri chi? Vedi? Gli altri e questo chi? È un Vangelo, sì, che è stato approvato anche da dalle autorità ecclesiastiche. Ma come è possibile? Come? Cioè il vescovo di Treviso ha approvato il Vangelo di Gentilini? Ma certo, perché mi ha detto il vescovo: signor sindaco, sì, ci sono le, basta che non mi tocchi i quattro evangelisti. Sì. Cioè, sono molti Vangeli apocrifi. Sì. Ma il suo è apocrifo, ma è pieno di valori e di ideali. Senta, a tutti quei leghisti che da Radio Padania... E quindi ho l'imprimatur, sì, la benedizione del vescovo, la benedizione anche delle autorità ecclesiastiche. Cosa finito. Vuoi di più nella vita? È tutto finito. Scusi un attimo, onorevole Gentilini, patriarca Gentilini, vescovo laico Gentilini, che celebro 3-4 matrimoni quasi ogni sabato. Però le piace la parola Duce Gentilini? Le piace, le piace un la po'. Parola Führer, Führer Gentilini, mi piace la parola sai, i romani dicevano Dux, Dux, sì, hai certo capito? Dux Gentilini. Io sono ancorato ai romani. Ecco. Certo. Ogni tanto io per la città trovo i romani, dico sì, voi siete romani, sì, ma io sono particolarmente affezionato ai romani di 2000 anni fa, quelli di un quando tempo avevano l'impero romano. Non c'è dubbio. Scusi però sindaco, adesso abbiamo il traffico, però se lei dovesse invece imbattersi per le strade di Treviso in una coppia di giovani due uomini che bellissimo si danno un tenero bacio sulla come bocca reagisce lei? Allora, vedi, io sono un libertario per natura. Sì, sì. Ognuno è arbitro del proprio corpo. Sì. Ah. Ognuno può fare quello che vuole. Questo del è buono proprio corpo. Sì. Bravo. Ma non tollero le esibizioni nei luoghi pubblici, sui giardini pubblici. E dunque? Ecco, ognuno faccia le sue cose nei propri recinti, hai capito? Ma l'esibizionismo a me non piace, anche la io sono un grande assertore, sì, di una legge sulle prostitute. Ci andava, sì, lei a prostitute? Perché ognuna è arbitra del proprio corpo. Ci andava lei a prostitute? L'ho scritto a decine di lettere al Presidente della Repubblica, al Presidente. Ma lei ci andava? Da giovane? Certo, ma io ho fatto anche l'artigliere da montagna a Belluno e i casini erano aperti, no? Certo. E c'erano chilometri di alpini che andavano. Con quante prostitute è stato lei, Gentilini? Si guadagnava anche il comune. Con quante prostitute è stato lei, Gentilini, quando c'erano le case chiuse? A decine, hai capito? Certo. La mia gioventù, appena si compiva 18 anni, perché una volta legge era molto rigida. Zac! Non potevi andare nelle case di tolleranza se non avevi compiuto i 18 anni. Ci mancherebbe altro. Allora, sindaco, un attimo solo, abbiamo il traffico, rimanga lì fermo. 800 24 00 24. Adesso parleremo anche di Lega, di quello che sta succedendo con Bossi, che dovrebbe diventare presidente. Io non so se lei è d'accordo oppure no. Maroni segretario a giorni, Bossi presidente, non vuole mollare, annuncia una grande notizia che darà, una grande notizia che farà storia, una cosa epocale, chissà cosa sarà. Eccoci qui, torna la Zanzara per questo inizio di settimana. Che succede? Al tetto al DDT, ci sono un sacco di persone che vogliono spruzzare che tentano di spruzzare il DDT, caro Gentilini. Perché gli americani appena entrati qua nel 45 a Treviso hanno inondato la città di DDT contro le zanzare. Non vorrei che succedesse anche a voi. Ma qualcuno ci prova ogni tanto a usare il DDT. Scusi un attimo, ma lei vuole uscire dalla Lega per candidarsi a sindaco di Treviso? Di nuovo? No, assolutamente. Io rimarrò leghista, ma se nel mio partito ci dovessero essere delle opposizioni e dovessero portare avanti i nomi che non siano a mia immagine e somiglianza, ma cosa logicamente prenderò le mie decisioni. Ma cosa vuol dire? Ma, scusi, ma lei si sente Dio praticamente. Chi è a sua immagine e somiglianza, scusi? Ma finora non ce ne sono. Come? Come ha detto? Il Padre Eterno ha creato uno stampo e ha buttato via lo stampo dopo aver creato Gentilini, hai capito? Stupendo, scusi un attimo, grande, però Gentilini, io dico italiani! Una cosa. No, italiani! No, che c'entra italiani? Vinciamo alla guerra! No, che c'entra? Italiani di terra, di mare, di cielo! Le piace, scusi un attimo, Gentilini, io voglio dire una cosa. Però lei ha una certa, adesso detto con tutto il rispetto, è ha una certa età, ha già fatto il sindaco, il prosindaco, alla prostata, a Dio piacendo, è ben sana in corpore sano, ma è vero che il Presidente della Repubblica è molto più vecchio di me, gira in tutto il mondo, perché non posso fare nuovamente il sindaco? Siccome io voglio compiere, terminare un ventennio, per vecchia memoria, certo. Allora mi ricandido ancora. Scusi sindaco, quando è l'ultima volta che ha fatto l'amore il Dux Gentilini? L'ultima... Il Dux Gentilini, guardi, una volta le donne erano difficilmente abbordabili, e allora appena compiuti 18 anni, bordello, 3-4 amici, abbiamo preso una bicicletta e siamo andati ai casini di Conegliano. Vabbè, questo, ma adesso è stato il primo atto d'amore, e ti posso dire che mentre facevi le cose la ragazza ti diceva, mangiava un pomo e ti diceva fai presto perché ho tutta la gente che mi aspetta fuori. Hai capito? Questo era l'amore mercenario. E adesso l'ultima volta che l'ha fatto, quando è? Ricordo antico ormai. Ma vedi, una volta anche l'amore costava, hai capito? E allora andavamo a raccogliere residuati di guerra, da ossa, stracci vecchi, ferramenta, facevamo su un gruzzoletto e lo adoperavamo per le nostre esigenze fisiche, hai capito? Era un amore che costava fatica perché non aveva... Comperavamo una sigaretta alla volta, questa è stata la nostra gioventù. Scusi un attimo, ma lei diventasse di nuovo sindaco di Treviso, aprirebbe una casa chiusa subito, così, veloce? Io ho sempre patrocinato l'apertura delle case di tolleranza, le cooperative dell'amore, la piena adesione delle professioniste, giusto, al di fuori da ogni controllo di magnaccia, sotto devono pagare le tasse perché è un fiume di denaro. Io l'ho detto al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio, è un fiume di denaro, tasse, e deve essere tassato anche quello, cosa perché serve per la droga, le armi, e cosa le serve, ha detto? Per il ratto delle Sabine e tutto quanto. Il ratto delle Sabine. Ma che hanno detto? Che risposta hanno dato? Il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, come hanno risposto? Ma hanno sempre taciuto perché c'è falso moralismo. Hai capito? Certo. Perché scusi, Gentilini, scusi un attimo, però le voglio chiedere una cosa. Bossi ha detto: il giorno della libertà è vicino, la libertà è dietro l'angolo. Non passeranno molti giorni che leggerete una notizia incredibile. Ma secondo lei, Bossi, ha tutte le rotelle in testa ancora? Io ho sempre detto che la malattia di Bossi è stata determinante sia per il mancato funzionamento del governo per questi 3 anni e sia per il mancato controllo di tutto e di tutti. C'è stata troppa gente che ha messo le mani sul vaso della marmellata. Ho capito, ma Bossi è ancora in grado di fare il presidente della Lega, Gentilini? No, non lo credo, soltanto può essere una icona, ma non può assolutamente più essere un trascinatore, cioè l'animale politico, quello che graffia, quello che dà la carica vitale, non ce l'ha più, quindi resta un quadro, una icona da guardare, da ricordare, ma purtroppo le faccende che sono successe al vertice hanno distrutto la Lega. Sputtanato. Hanno distrutto la fiducia nella Lega. E dunque... Io 20 anni che parlo in tutta l'Alta Italia. Sempre 20. E adesso non so più cosa dire. Certo. Lui dice che continuerà ad avere molti poteri, ma qualcuno bisogna che lo fermi su questo. Glielo dica. Sì, ma io credo che Maroni sia in grado di dire, di fare uno stop, perché assolutamente non vogliamo che si ripeta quell'atto criminale e criminoso che si è creato da quel circolo magico, hai capito? Certo. Senta... Non voglio venditori di diamanti e non voglio neanche venditori di droga e tutt'altro quello che c'è dietro, hai capito? Voglio la pulizia totale. E dunque Bossi no, presidente? Basta. No, sì, ma una carica onorifica, ma sì, un quadro, non ha più un la quadro. Carica operativa di trascinare come una volta le folle, hai capito? Senta un attimo, ma quando lui dice ma basta pure con questa storia dell'indipendenza, no? L'indipendenza, la secessione, basta illudere, no? Io ho detto la secessione, parliamo di secessione quando avremo il 50+1. E cioè mai? Ecco, io ti dico come vedo la secessione. Sì. Domani che c'è il 50+1 facciamo quello che vogliamo noi. Sì. L'indipendenza è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché l'indipendenza cosa facciamo? Da chi? Da chi? Dobbiamo fare le barricate e andare a Roma? Certo. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Gentilini, viva l'Italia! Lo dica, viva l'Italia! Io ho sempre onorato il tricolore, ho sempre onorato l'inno. E allora viva l'Italia, l'abbracciamo forte qui dalla Zanzara. Buona serata! Ciao a tutti, ciao. Giornale Radio. Eccoci di nuovo in diretta alla Zanzara su Radio 24 alle 19:18 qui in studio a Milano, le due Zanzare, Giuseppe Cruciani. David Parenzo, buonasera, signor Cruciani. Titoli del TG3. Subito così. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. La Merkel non cede, no a un vertice sul debito europeo in comune, prima rigore e riforme, le borse affondano, Milano meno 4%. Monti al Quirinale per preparare il vertice, domani incontri separati con Berlusconi, leader della maggioranza, fiducia sulla riforma del lavoro. Casini, rischiamo le elezioni ad ottobre, possibile un asse tra progressisti e moderati, Bersani è un passo importante nella logica delle cose. Formigoni insiste, non ho avvisi di garanzia, ma la Lega lo gela, così non si può arrivare al 2015, probabile che si voti già l'anno prossimo. Esplosione in una base italiana in Afghanistan, muore un carabiniere, per la difesa un attentato, ma per gli afghani è stato un incidente. Un cucciolo di maiale, in una pagina Facebook, insulti e parole pesantissime contro la madre di Federico Aldrovandi, morto dopo un controllo di polizia. Festa per la vittoria azzurra contro l'Inghilterra, giovedì il match con i tedeschi, favoriti, ma l'Italia ha una lunga tradizione positiva. Voglio risentire Borghezio, per rimettermi un po' sì, di... Sì, un inizio settimana meraviglioso, direttorissimo. Borghezio, gli accordi con Roma, fatemi sentire di nuovo così per tirarmi su di morale. Magari qualcuno si è un po' adattato, si è un po' convinto che si possa risolvere i problemi d'accordo con Roma. Manco per il cazzo! I nostri problemi si risolvono bruciando Roma ladrona, combattendo tutti i giorni con le nostre bandiere, rompendo i coglioni, facendoci rispettare sul nostro territorio. Com'era il passaggio che mi è sfuggito? Per un attimo mi è sfuggito. Bruciando Roma, Roma ladrona! Magari qualcuno si è un po' adattato, si è un po' convinto che si possa risolvere i problemi d'accordo con Roma. Manco per il cazzo! Ah, ecco. Mi ero dimenticato, mi era sfuggito questo passaggio. Formigoni contro i giornali, Repubblica come la Pravda, il Fatto come la Svestia, eccetera. Ride eccetera. Anche Longoni. È inutile. Ride Longoni. È inutile che andiamo a ripercorrere tappe di questa vicenda di Formigoni, le inchieste, inutile ricordare il ruolo del signor Daccò, ricordare che lui è un memores domini e aveva fatto voto di castità e di povertà, santo cielo. Questa l'istanza presentata alla Procura della Repubblica, affinché nessuno abbia dubbi riguardante una serie di articoli pubblicati in queste settimane dal quotidiano La Repubblica, che io simpaticamente chiamo La Pravda, il quotidiano di regime, e dal quotidiano Il Fatto Quotidiano, che potrei simpaticamente chiamare l'Isvezia, il quotidiano dell'Armata. Addirittura Memores Domini, esagerato. Tu sei fissato con questo Memores Domini? Voto di povertà, povero signor Giussani. Altri miei colleghi, Iotta 30.000 euro. Longoni, di qualcosa. Altri miei colleghi con avvisi di garanzia. Ma chi è Longoni? Non si sono dimessi. L'eminenza grigia del mattino, del signor Milan Longoni. Se ci fosse un avviso di garanzia, io raggiungerei, dopo anni di ritardo, lo status di miei colleghi presidenti di regione che sono sottoposti a indagini da tempo e giustamente non si sono dimessi. Ma questo non è un ragionamento Errani, sì, giusto, perché poi anche Vendola, anche di Vendola. Questo non è un ragionamento sbagliato. Quindi che la parente di sinistra non ricorda dei suoi amici Errani e Vendola. Signor Renzi, c'è gente in Parlamento, ha fatto la lista in pratica di quelli che secondo lui andrebbero cacciati, chi è sopra i tre mandati senza deroghe, via. Che noia, che noia. Gente in Parlamento da quando c'erano i Righeira. Oppure in quegli anni più italiano, i Righeira ce l'hai? Vai con i Righeira. Lo sai che non mi va. Era tutto preparato, Beh, abbastanza, sì. Non è che ci viene a turlupinare, no? No, più grandi Righeira. L'estate sta finendo, il loro mandato no. C'è gente che è in Parlamento da quando c'erano i Righeira. Però non è che ci vuole, no, ci vuole vendere. Viene a rubare a casa dei ladri, qui è tutto preparato, questo siparietto tutto preparato. Ce l'hai per caso la musica? Piaccio a destra, unico modo per vincere. Beh, su questa ragione. Ma lui piace anche a quelli di centrodestra. Io vorrei sinceramente invitare a fare una riflessione pacata anche gli ultra delle rispettive tifoserie. Piacere a quelli che l'altra volta hanno votato di là non soltanto non è un delitto, ma è l'unica condizione che abbiamo per non riperdere l'elezione. Certo. 800 24 00 24, di nuovo con noi il mitico. Chi c'è? Diego Volpe Pasini. Ah, Pasini. Oh, salve. Ecco, il maître à penser, no? Ma vedete quante cose sono successe? Il kingmaker, il grande kingmaker della politica italiana, quello che voleva candidare Renzi a sua insaputa, il nuovo genio di Arcore, Volpe, fatelo dire da un amico, sei una volpe, ma non un'aquila! Oh, ascolta, ma ti va via la voce mai? Datemi una VIX, impazzito. E lo pensa anche Longoni. È impazzito. Anche vabbè. Longoni. Comunque, lo pensa. Andiamo a parlare di cose serie. Devi fare sempre il buffone ogni volta. Ogni volta devi fare il buffone. Vuoi attaccare Volpe Pasini? Perché vuoi attaccare Volpe Pasini? Sparare sulla Croce Rossa. Perché fa politica? Ma che fa politica? Il signor Volpe Pasini dice: io stanotte voglio passare una notte con Sharon Stone. Faccio tutto il progetto, faccio il letto, le lenzuola bianche di lino, il cameriere che arriva, Longoni che mi porta un drink e tutta questa roba qui. Però a un certo punto mi confronto sul fatto che Longoni lavora con Milan, che Sharon Stone non vuole fare l'amore con me, che le lenzuola di lino non le ho, e allora che cazzo scrivo un progetto dove voglio candidare Renzi? Sì, a Volpe! Allora, con quelli che pensano come te non si sarebbe neanche inventata la ruota, ma questo ti appartiene, ma va benissimo. Ma lo so che va benissimo. Scusa, Volpe Pasini, però qui ti hanno dato tutti a pesci in faccia i maggiorenti del PDL. Come mai? Compreso. Ci mancherebbe altro. Gaspari dice che la Rossa Tricolore è una fesseria piramidale. Sì, intanto però l'ha letta. Vabbè, l'ha letta, per forza. Io credo che, vedi, il problema di Gaspari è che mentre la Rosa Tricolore è una fesseria piramidale, va benissimo, il secolarizzato della politica di centrodestra, cioè lui, sa perfettamente che qualunque possibilità di rinnovamento passa attraverso la sua non ricandidatura e quella di tutti quelli che come lui sono in Parlamento da 20 anni. Pertanto è ovvio ed evidente che qualunque tentativo che noi stiamo facendo, e vinceremo, di portare a termine un rinnovamento fortissimo ma di centrodestra, noi tutti... Tu e Berlusconi? Ma dici chiaramente? Berlusconi e io, sì, va bene. No, piace? Per capire... Piace? Cioè, da una parte, io sono molto serio questa volta. Ci sei non tu urli, e Berlusconi. Possiamo non essere d'accordo, basta che non urli perché mi fai male a un orecchio. No, ma non urlo, non urlo più. Guarda, basta. Perché allora, sono come l'hai definito prima, Gaspari? Scusa, secolarizzato. Che vuol dire secolarizzato? Vuol dire che lì da sempre, che ormai è diventato parte integrante di una cosa che non è, è inamovibile, è irriformabile, è stanca, è stantia, è ferma. Ma lui dice che Alfano, insomma, ci saranno le primarie, il nostro candidato è Alfano. Tu ci credi che ci saranno le primarie? Allora, le primarie, ha fatto bene Berlusconi all'ufficio di presidenza a dire che il PDL fa bene a farle, ma è stato lo stesso Alfano a dire che servirà una coalizione. E se serve una coalizione, mi spiegate che cosa servono le primarie del PDL? A indicare chi è il leader del PDL. Ma il leader del PDL di fatto c'è già, il segretario nazionale. Ha bisogno di una certificazione popolare? Benissimo, la faccia. Ma non è lì il punto. Il punto è che... Cioè tu dici che non avrà rivali? Cioè la... No, allora questa è la mia idea. No, ma... no, cioè? Il ragionamento. Cioè, nel momento stesso in cui il presidente Berlusconi a Fiuggia ha detto... voglio rinnovare il PDL nel nome, nel progetto, nell'immagine e nelle facce, e quindi vuol dire quello che dico io, cioè cambiamo tutto, ma non ci riuscirà perché sarà impossibile. Allora a quel punto Berlusconi dà benissimo, vi consegno le chiavi del PDL, tolgo le firme e qualche quattrino magari, ma vi consegno le chiavi e io, siccome non voglio stare ai giardinetti perché ho tanto da dare a questo paese e sono convinto della forza che ho, faccio un altro movimento come quello del 94 e siamo alleati, ma insieme non siamo sufficienti, quindi dovremmo allargare ulteriormente. A questo punto le primarie del PDL servono a certificare il ruolo di Alfano, ma tutti coloro che stanno con Berlusconi, Galan, Santanchè, Sgarbi eccetera, non ha alcun senso che partecipino a quelle primarie. Ah, tu mi stai dicendo che la strategia di Berlusconi è quella di lasciare Alfano da solo e nessuno si candida alle primarie, e dunque affossare le primarie. Ma perché dici, innanzitutto affossare le primarie, non l'ho detto io, lo dici tu. Secondo, questo è un mio pensiero, non è quello di Berlusconi. Ma mantenendo fede a quello che ha detto, va bene le primarie, per non far finta di essere preso in giro tra virgolette da questi qui che dicono una settimana dice una cosa e l'altra settimana dice un'altra cosa, benissimo le primarie, ma le primarie non ha senso, dico io, che partecipino coloro che hanno già individuato in Berlusconi, nel progetto di Berlusconi che nascerà dopo domani o tra una settimana o tra un mese, il loro naturale sviluppo. Cioè alla fine, alla fine chi le farà ste primarie, scusa, nella tua idea? Le farà Alfano. E poi contro chi? Contro chi? Contro chi? Diciamo, contro nessuno, qualcuno, da solo? Con qualcuno che come loro ritengono che Berlusconi deve andare ai giardinetti. Ah, ho capito. Bene, allora no, che c'è? La borsa, torniamo subito, 800 24 00 24, fermi lì. Eccoci qui, 800 24 00 24. Un ascoltatore mi chiede la diffamazione dell'agente condannato nel caso Aldrovandi perché ha insultato la madre del ragazzo. Caro ascoltatore Angelo da Torino, ci sono le leggi, ci sono le leggi a proteggere e ci sono anche eventuali provvedimenti da parte della polizia rispetto a cose di questo tipo. Giusto chiederselo, no? Che cos'è che ha scritto? Faccia di merda. Non mi ricordo, però è giusto chiedersi, nello stato di diritto la polizia non è sopra la legge. Ma questo è scontato. E dunque ci saranno provvedimenti disciplinari interni, inchieste interne. È giusto però mettere sotto osservazione anche la polizia, non è che siamo in un paese che si debba mettere sotto osservazione, siamo quindi tutti d'accordo. Cosa bisogna fare in questi casi quando uno degli agenti condannati insulta la madre di Aldrovandi via Facebook? Cosa si può fare? Cosa dovrebbe fare la polizia? Cacciarlo su due piedi? Potrebbe, sì, ci sono stati dei casi in cui ad esempio Gioacchino Genchi è stato cacciato dalla polizia perché aveva scritto delle cose su Facebook, Volpe Pasini è con noi, Diego Volpe Pasini, il grande capo della rosa tricolore. Allora, che non esiste, lo sai, continua a ripetere. Rosatricolore.it, vai a vedere un po', così cominci a capire. Sì, ma io posso mettere anche sharonstoneparenzo.it, se lo vediamo subito. www.sharonstonedavidparenzo.it, certo. Che cabaret ti ha dato la testa? Ma quale cabaret? Se tu analizzi un po' tutte le cose, se lo stesso Renzi dice mi sarebbe piaciuto farvi vedere la rosa di colore, ma faccio vedere Fosbury, e in fondo piacere agli avversari non è un dramma. Ma era ironico. Non era ironico per niente, non era ironico per niente, perché anche lui sa perfettamente, vedi, siamo centro-destra e centro-sinistra, perché c'è una fase sovrapponibile. Sentiamo, allora io nella mia analisi, che è un'analisi che ho fatto io, ma dopo aver discusso al tavolo col presidente e aver proposto questa cosa più volte. È questo che mi preoccupa. Ti preoccupa, vedi, ma tanto tu non ci voti, quindi chi se ne frega. Ma io cosa sai cosa voto io? Lo so perché sei un compagnone, quindi va bene. Punto la rosa compagnone ti ha chiamato, ti ha accompagnato. Rosa Tricolore. www.rosatricolore.it. Adesso vediamo, esatto. www.davidparenzo.com. Ma per esempio c'è un programma dettagliato per allora, quello che riguarda i matrimoni gay, nostro grande, nostro grande cavallo di battaglia, suo direttorissimo cavallo di battaglia. Poi, vedi, io sono diventato omofobo. Matteo Renzi, se non si facessero le primarie e si andasse al voto anticipato, come ha detto anche Casini oggi, e quindi Casini ce l'ha con Bersani, altra accelerazione fortissima causata da quello che abbiamo tirato fuori. Beh, adesso che Casini faccia questa accelerazione, perché è uscita fuori la storia della rosa tricolore, perché Berlusconi ha dichiarato che scende in campo di nuovo. È per questo. Ah sì, quello sì, quello perché, sì. Ma perché Berlusconi ha detto che c'è in campo di nuovo? Perché si è generato di nuovo una necessità di coinvolgimento personale del presidente. Allora io che voglio... non è un lavoro di un giorno, è un lavoro di mesi. Chi è che non vuole più Berlusconi candidato nel centrodestra? Quasi tutti non lo vogliono più. Ma quasi tutti chi? Quei 10 che governano il centrodestra. Cioè chi? Facciamo i nomi, fuori i nomi. Gasparri, la Meloni, Cicchitto, Corsaro, la Miracolata, come si chiama, la Carfagna. Questi qua non vogliono più Berlusconi. Esatto, quelli sono 5, 8, oggi 9. Cicchitto parla di Sgarbi come il grillo lillipuziano. Perfetto, ma guarda, più ci insultano. Sì. Vedi, quello che è che quando loro vanno in televisione, anche noi che siamo gli elettori, spegniamo la TV. Cioè sono diventati insopportabili. Ma loro chi? Anche a noi. Ma chi? Cicchitto, Gasparri. Ma lo pensa anche Campagna. Berlusconi questo? Come? Lo pensa anche Berlusconi o no? Ma scusa, perché devo parlare con te? Tu non credo che insultare, ma adesso mi ascolti? Ma io ti hai detto chiedendo... che sono un demente, che dice non ho mai detto che sei un demente. Vai a bere un caffè e non mi ascoltare, non mi interrompere. Non ho mai detto che sei un demente. Ho ironizzato. Ma sì, perché uno fa il sito La Rosa Tricolore e vuole candidare Renzi. Anch'io voglio andare a fare l'amore con Sharon Stone, ma so che non succederà mai, no? Non ci riesci per una questione di approccio. Io invece parlo di cose che conosco e che riesco a fare. Questa è una differenza fondamentale tra di noi. Scusami. E soprattutto non mi coinvolgono personalmente, perché non ho obiettivi personali, ma solo di dare un contributo di idee. Beh, un passaggio in Parlamento non ti dispiacerebbe, diciamo la verità. No, guarda, ti dico la verità, con grande sincerità. 6 mesi fa lavoravo su questo obiettivo, sì, è vero. Però in questi 6 mesi, lavorando come ho fatto e potendo dare un mio contributo, non mi interessa assolutamente. Allora, io dico una cosa per concludere con Diego Volpe Pasini. L'obiettivo, però diciamocela tutta, l'obiettivo di Berlusconi a questo punto, e indirettamente anche della rosa tricolore, eccetera, eccetera, è quello di affossare questa storia delle primarie di Alfano, cioè lasciare Alfano a sfidare nessuno. Tu hai detto allora, non si devono candidare Santanchè. Ci sono due possibilità. L'ha detta Fiuggi, rifacciamo completamente il PDL, gli cambiamo il nome. Vabbè, non lo vogliono fare. E allora il PDL è una cosa loro, e le primarie se le fanno all'interno di chi vuole mandare Berlusconi ai Giardinetti. E allora con chi le fa queste primarie, Alfano? Ma le farà con qualcuno dei formattatori lì, dei giovani che sono peggio dei vecchi, che sono da sempre dei portaborse di gente che sta in Parlamento da 20 anni. Le farà con qualcuno, sempre nella cerchia di chi vuole da Alfano la candidatura, perché Alfano è straordinariamente sostenuto da persone che vogliono esclusivamente la candidatura da lui. Alfano è un'ottima persona dal punto di vista personale, ma forse non capisce che questo grande sostegno a lui è dato da gente che non vuole vincere le elezioni, perché se vince le elezioni che vogliono fare questi qua? La Russa, Cicchitto, Gasparri, partito, fanno politica per avere il partito, per ottenere di nuovo la candidatura, eccetera, per avere il partito, per continuare a essere quello che sono da 30 anni. E noi invece abbiamo bisogno di un centrodestra totalmente rinnovato nelle alleanze, quindi senza Lega e senza UDC, guarda, e nelle persone. Guarda, io ho aperto adesso il sito rosatricolore.it per curiosità, per vedere, no? Si narra: la Rosa Tricolore è un network politico ramificato sul territorio nazionale che intende ricreare le condizioni necessarie affinché la grande area dei moderati con Berlusconi premier possa tornare a governare il nostro meraviglioso paese. Ma di che cosa stiamo parlando, signor Diego, e anche Volpe e anche Pasini, tre persone? Di quello che noi pensiamo e di quello ma noi quale, chi? Per quale lavoriamo. Ma noi chi? Ma noi guarda, chi? Posso dire una cosa? Visto che è stato Lecchino con gli industriali, ci sono talmente ma quale Lecchino con il signor Squinzi? Ma di cosa stiamo parlando? Tanti dirigenti di Confindustria per industriali importanti. Ma lascia stare. In queste cose. Ma talmente tanti. Che poi non li vedrai. E allora passerai e comincerai a allungare. C'è anche un sondaggio. Esprimi la tua opinione. Voteresti Berlusconi breve per le prossime elezioni politiche? No! Vota ora! Guarda qui! No! Vota ora! No! Vota ora! Voto funziona! Vota ora! Vota ora! Vota ora! No! No! No! No! Noi non vogliamo Bersani, non vogliamo Vendola, non vogliamo Di Pietro, non vogliamo questo, vogliamo Berlusconi. Grazie, grazie, grazie Diego Volpe Pasini, grazie. Scusa, dimmi, che c'è? Si chiama www.rosatricolore.it. Ho capito, abbiamo capito, www.rosatricolore.it. Voglio fare l'amore con Sharon Stone. Santanché, Galan, Sgarbi, non candidatevi alle primarie. Voglio fare l'amore con Sharon Stone. Santanché, Sgarbi, Galan, non candidatevi alle primarie. E tutti quelli che stanno con Berlusconi, non candidatevi alle primarie, che non serve. Lavorate con Berlusconi. Aspetta che vi do i risultati del sondaggio, perché c'è... Ma che c'entra, l'abbiamo appena messo, Perché qui, voteresti signor Berlusconi? No, rivotiamo ancora, no. Dai risultati. Risultati... Voto, non è solo un voto. No, vota ora, nessuno vuole Berlusconi. Guarda, qui risulta che non vogliono Berlusconi. Grazie a Diego Volpe Pasini. Osmo da Milano, buonasera. Buonasera. Osmo, ma che nome è sto Osmo? Osmo. Osmosi, di andare a spiegazioni già un mese e mezzo fa quando ho chiamato. Io mi permettevo di chiamare adesso per due cose. Una, se vogliamo, banale, bonaria e tutto, e l'altra serissima. La prima per smentirla, ritenere la colta no, in però castagna. Osmo, scusi un attimo, Osmo, lei deve primo abbassare la radio, secondo parlare col telefono senza viva voce. Ci sono due operazioni che deve fare, no? Subito. E ci so. Adesso vado a spostarmi un po', però sono assolutamente con il cellulare, sì, ma senza viva voce. Vabbè, non la sento, non la sento. Riprendiamo dopo. Massimiliano da Roma. Fatta arrabbiare. Buonasera, Gruciani. Vada. Senta, io volevo dire una cosa a Parenzo. Sì. Che scuola ha fatto Parenzo? Ma sono affari suoi che il scuola ha fatto, classico. Scusi. No, mi interessa a me che ma cosa le interessa che scuola classico. Ha fatto Parenzo? Glielo dico che cosa mi interessa, ma glielo dico. Mi dica. Gli dico che a volte un po' di ignoranza renderebbe umile. A proposito, di che cosa? Non ho capito di cosa sta parlando. A proposito di cosa? A proposito della tortolata che ha detto quell'imbecille, no? Giusto, lei di cosa sta parlando? Ha detto, dice, ma che scuola ha fatto? Le serali? Siccome io ho fatto le serali e sono ignorante, sono sentito colpito. Allora sentiamo Parenzo dove ha studiato. Ma non lo liceo classico, ma non c'entra, non lo dicevo con termine dispregiativo, assolutamente. No, invece l'ha detto con termine dispregiativo. Le assicuro di no, che non è così, anzi, grande rispetto per chi ha fatto tutte le scuole di ordine. Ah, ogni ecco, ordine perfetto. Io chiamavo evidente, solo per questo. Massimiliano, non si preoccupi, noi siamo rispettosi, abbiamo le nostre idee, ma siamo rispettosi di chiunque abbia fatto qualsiasi scuola, figuriamoci. Ci mancherebbe altro, anche perché non è un metro di giudizio. Ci rivolgiamo noi a tutti, intellettuali, operai, autisti, tassisti, giornalisti, Stone, modelle, soprattutto Luca da Treviso. Signor Luca? Sì, buongiorno, buonasera. Dica. Allora io volevo un po' replicare al sindaco pro sindaco Gentilini. Sì. Perché sembra che a Treviso si viva in un posto idilliaco, no? Sì. Beh, non si vive male a Treviso. Tutti gli indicatori dicono che a Treviso non si vive male, caro Luca. Però no, non si vive male, però non abbiamo un impianto fognario, non esiste una raccolta differenziata, per cui dopo 16 anni di buon governo, come dice allora il sindaco, teoricamente ci dovrebbe avere una città dove si vive in maniera paradisiaca. In realtà non è così. Ho capito, questa è la sua sensazione, non si vive in modo paradisiaco. Come si vive? In purgatorio? Come si vive? Scusi? Come si vive a Treviso? No, a Treviso si vive bene da un certo punto di vista, sì, ma malissimo da un certo punto di vista, non da altri punti di vista. Grazie Luca, Gregorio da Bologna, a me come si vive a Treviso, secondo Luca, sinceramente non me ne può fregare di meno. Gregorio da Bologna, buonasera. Dopo la telefonata di Volpe Pasini, spero che la mia telefonata credo che abbia più senso, perché volevo sostenervi nella candidatura che voi credo abbiate proposto di Oscar Giannino Presidente del Consiglio. E noi, per noi trattasi quasi di religione, direi, no? Sì, io con tutto il rispetto che ho per il governo che c'è stato, Berlusconi, che è stato scelto dagli italiani, e vedendo chi c'è ora in campo, sono contento di aver scoperto anche grazie a Radio 24 Oscar Giannino. Io conoscevo vagamente, poi dopo ho ascoltato varie proposte, proprio una persona che abbia le caratteristiche, forse mediatiche un po' meno, nonostante allora la sua eleganza estrema, spero che diventi il prossimo presidente del Consiglio. Beh, questo mi pare molto difficile, purtroppo, però sa, le vie del Signore sono infinite, infinite. Osmo, l'abbiamo recuperato, il signor Osmo da Milano. Intanto la Grecia... La segreteria si chiama adesso, mi auguro di sì. Un attimo solo, Osmo, scusa un attimo Parenzo, ma questi qua che ti famano Grecia come te... Guarda, leggiamo oggi quello che c'è scritto su tutti i giornali. Hanno cercato di fregarci assumendo 70.000 nuovi statali dedicato a tutti quelli che tifavano per la Grecia contro la Germania, perché il paese no, contro la Merkel, eccetera. Invece di fare sacrifici assumono 70.000 nuovi statali. No, ma sì, sì. Osmo, parli, dica lei. Un conto è il popolo greco, un conto è questa banda di affaristi che hanno governato la Grecia negli ultimi 10 anni, dividendosi il potere tra il partito di Papandreou PASOK e il partito di Nuova Democrazia. Osmo da Milano, parli, perché la gente non c'entra niente, invece la classica divisione tra la società la civile e la politica. La gente festeggiava con orgoglio la vittoria della Grecia, era Osmo, contro la Russia. Di aver raccolta in castagna, dottor Cruciani, in virtù di una banale logica, sovente si dichiara traditore, io tradisco alla grande, l'ho detto anche venerdì. Però quando la certa condotta, ad esempio la promiscuità, viene normalmente ammessa, dichiarata, riconosciuta come abitudinaria, come fa, il tradimento non sussiste, non può sussistere. Il tradimento c'è solo quando si mente sul proprio comportamento, altrimenti no, mi pare Osmo, chiaro. Senta, la sentiamo male. Vuole prendere e mettersi in una posizione in cui la sentiamo meglio? Dannazione, sì o no? Sì o no? Alzo la voce al massimo. Ma non sentiamo! Paolo da Bergamo. Pronto? Sì. Salve, io volevo proporle di sostituire come opinionista a Parenzo la mia gallina padovana. La gallina padovana. Se vuole posso farla sentire subito, visto che sono... Sì. Faccia sentire la gallina padovana, su. Adesso sentiamo. Ma che è? Ma che è sta roba? Paolo, non si sente niente, avvicina la cornetta, avvicina il telefono. Aspetta. Ma è vera, eh? Ma è una gallina vera o finta? Ha sentito? Ma lei la sta torturando questa gallina, che sta facendo? Lo sto dando da mangiare, sulla loro vicina. Ma come, dà da mangiare la gallina lei? Scusi, non ha diritto a mangiare. No, ma l'hai in bocca, non capisco. Ma farà l'agricoltore, avrà una gallina in casa, scusa. Certo. Ma lei vive con la gallina in casa? Sì, no, non in casa, in giardino. Ah, in giardino. In giardino, comunque, certo. Comunque volevo dire che... Ma come fa la gallina? Mi faccia risentire ancora sta gallina. Un secondo. Sì. Ma è vero, davvero? Non è molto facile riuscire a... Non è facile. La gallina... La tutta la sera, fino alle 21, voglio sentirla. No, perché allora devo dire che facciamo dei discorsi molto interessanti e molto spesso delle opinioni un po' più articolate rispetto a quelle di Parenzo, ecco. Addirittura? Sì, soprattutto quando si parla di corruzione... Come si tratta di Rutelli, caso Lusi. Cioè? Che Rutelli parte lesa, invece quando tratta col Formigoni già colpevole. E invece qui... Ma questo è Parenzo, è il giustizialismo di Parenzo. Ha già assolto Rutelli e condannato Formigoni. Non ho assolto Rutelli, ho detto semplicemente che nel caso Lusi, fino a quello che sappiamo oggi, sappiamo che la Margherita è parte lesa, visto che questo si è rubato il intestato il patrimonio della Margherita. Se dopo verrà fuori che Rutelli è lui che gli ha detto di intestarsi le case... Parlavo l'altra volta di responsabilità politica. La responsabilità politica di Formigoni è... chi è sta gallina? E sei tu. Sei tu. Ma ti rendi? Responsabilità politica di Rutelli. Ma ti rendi? E la gallina Parenzo in diretta da Bergamo, dal pollaio di Bergamo. Di sfregiare Parenzo. Di proprietà del signor Paolo da Bergamo, che imita Parenzo con una gallina. Straordinario, può cadere solo la zanzara. In collegamento non so da dove, probabilmente da Torino, da casa sua, oppure già dal Parlamento Europeo a Bruxelles, non lo so. Gianni Vattimo, grande ritorno filosofo, alla zanzara. Buonasera. Buonasera. Filosofo teorico del pensiero debole. Come andiamo? Non male, direi, no? Ha appena scritto un libro lei, signor Vattimo? L'ho scritto, sì, l'ho pubblicato qualche settimana fa o qualche mese fa, non mi ricordo. Sì, si chiama Della Realtà. Della Realtà? Che vuol dire Della Realtà? E allora questo Della significa due o tre cose. E c'è un saggio di filosofia? Come dire, dateci della realtà. Due, De Realitate, che è un complemento di argomento in latino. E tre, Dalla Realtà verso dove? queste sono le cose, insomma, vabbè, riguardo il concetto di realtà in filosofia. È una cosa complicatissima. Leggiamone alcuni passaggi. No, che alcuni... alcuni passaggi, sì, io non ce l'ho sotto. No, che passaggi, no, lei ci deve... Vogliamo fare ogni tanto delle piccole pillole di filosofia. Sì, ma molto brevi. Però potrebbe essere una buona idea questa, signor Battimo, è fare delle piccole, per la zanzara, delle piccolissime pillole di filosofia. Laufebung. Collegate alla politica, perché no? Collegate alla politica, perché no? Certo, collegato alla politica, perché qui c'è, come dire, il discorso del mio libro significa che... si annoia anche lei. Si annoia anche lei. Non è una noia. Sì, che palle. È difficile spiegare la zanzara. Sì, allora iniziamo con le cose. Lo dica con parole sue, proprio come lo direbbe con la pancia. Per esempio, no? Monti, signor Monti, applicato alla filosofia, che definizione si può dare di Monti? E Monti è un realista, cioè uno che crede di conoscere le scienze economiche oggettivamente, mentre invece l'economia politica non è affatto una scienza naturale, cioè non è una scienza neutrale, non descrive oggetti, descrive comportamenti dal punto di vista di persone che si comportano a loro volta, quindi è inutile pensare che ci sono i tecnici che non sono politici, i tecnici sono dei politici che non vogliono cambiare niente, vogliono solo far funzionare meglio il sistema com'è. E questo è il realismo di Monti. Il realismo di Monti. Bello. Senta, però per tornare a cose un po' più da zanzara, diciamo le cose. Lei, per esempio, signor Battimo, sono curioso di una cosa. Si è mai fatto una canna? Anche questo è buono, sì. No, credo di averne assaggiato una volta uno un pomeriggio di domenica in America, però non mi faceva nessun effetto, benché gli altri presenti mi abbiano detto che ridevo molto, ma però... Non si ricorda. Anche senza farmi una canna. Cioè, lei non è uno di quelli che fuma ogni tanto, si fa con gli amici, no, così? No, no. Una canna. Non ho mai trovato tanti altri vizi a cui pensare, che questo non mi ha mai attirato. E che vizi ha? Vabbè, questo sono fatti miei. No, ma questa è una casa di vetro, professore. Che voi mi buttiate sullo scivoloso. No! Basta, zanzarastri. La zanzara. No, parliamo di cose serie, professore. È una casa di vetro in cui si può dire di tutto, no? Sarà contento che in Egitto hanno vinto i fratelli musulmani, no? Certo, visto che hanno sconfitto, insomma, intanto bisogna vedere fino a che punto hanno vinto. Certamente l'alternativa, se era quella dell'esercito, preferisco i fratelli musulmani, poi vediamo cosa succede. Meglio i fratelli musulmani di Monti, che non è stato eletto, per esempio. Per certi aspetti, lezioni. Beh, vabbè, musulmano non è Monti. No, voglio però dire. Voglio dire, almeno anche l'esercito, non lo so. I fratelli musulmani. Monti non è candidato in Egitto. No, lo so. Non i fratelli musulmani. Candidato d'Egitto. No, quello no. No, quello però rispetto a lì, dove ci sono state le elezioni presidenziali, in cui hanno vinto i fratelli musulmani, lì c'è la democrazia. Lì hanno votato, no? Hanno votato, c'è la democrazia, va tutto bene, ma bisogna vedere fino a che punto questa democrazia è condizionata dalle forze militari, che hanno a quanto pare la chiave di tutto. Quindi... Però guardi che in realtà la notizia del giorno è un'altra. La notizia del giorno è un'altra. È questa intervista incredibile, io dico, mamma incredibile, mia, caro Parenzo. Vergognosa. Di Beppe Grillo a un giornale israeliano. Io non l'ho sentita, non l'ho letta. Mi dite. Che allora, le diciamo subito, perché lo enunciamo anche urbi e torbi. Che porcheria. Io dico subito che porcheria. Allora, in Iran si sta bene. Poi cita anche il suocero iraniano. Mi ha detto che in Occidente traducevano male i discorsi di Bin Laden. Dice così Beppe Grillo, molto revisionista da questo punto di vista, direi molto battimiano. Mia moglie è iraniana, ho scoperto che la donna in Iran è al centro della famiglia, le nostre paure nascono da cose che non conosciamo, dice sempre Grillo. Ma io in generale poi aspetta, si ferma Ahmadinejad è noto a tutto il mondo. Appunto. Io vorrei che Ahmadinejad ci facesse finalmente la sua atomica, in modo da rappresentare un argomento di stabilità per il Medio Oriente. E dunque, magari sparasse anche l'atomica su Israele, perché no? Ma no, tanto Israele intanto ce l'ha e vuole costringerci a spararla prima che fra 20 anni o 40 Ahmadinejad ce l'abbia anche lui. Quindi per favore su questo non mi stuzzicate, poi sono opinioni molto precise. Scusi un attimo, dice ma sempre l'atomica, Grillo, vuole l'atomica per l'Iran. Ma che lo dici così, come semplicemente? Vuole l'atomica per l'Iran, signor Battimo. Vuole l'atomica? È un problema di equilibrio. Ma come di equilibrio? Se Israele è squilibrato. Ma un dittatore con l'atomica, lei sta scherzando, un dittatore con l'atomica in mano. Figuriamoci un dittatore. Ma è come un dittatore è eletto come tutti gli altri. Ma è come dare in mano a uno stupratore seriale una serie di donne? Scusi, ma che discorso è? È come se lei va in carcere. Ma scusi, professore, lei vuole dare l'atomica a quello schifoso di Ahmadinejad. È come dare. Uno schifoso, una persona molto per bene, che solo fa una politica diversa da quella degli Stati Uniti, sostenuti da Israele o sostenenti Israele. Siamo, però scusi un attimo, qua non è l'unica cosa che ha detto Beppe Grillo. Tutto quello che in Europa sappiamo su Israele e Palestina è filtrato da un'agenzia internazionale che si chiama... Aspetti. Ma come è ovvio? Mi fate vedere però devo la finire... famosa lesbica siriana. Come la lesbica? Tirate fuori la lesbica siriana, razza di vipere, perché la lesbica siriana era un signore pagato probabilmente da qualche servizio segreto che stava in Scozia. La lesbica siriana che, di cui avete vissuto alcuni giorni. Ma professore, sì. Lei è anche un docente universitario. Certo, ma... Professor Battimo, scusi un attimo, dice Beppe Grillo, tutto quello che in Europa sappiamo su Israele e Palestina è filtrato dall'agenzia internazionale che si chiama Memory, e dietro Memory c'è un ex agente del Mossad, ho le prove, che Livingstone, l'ex sindaco di Londra, ha usato testi arabi con traduzioni indipendenti, scoprendo una realtà mistificata completamente diversa. Cioè dice che l'informazione su Israele e Palestina è praticamente teleguidata, guidata dal Mossad. Su Israele, sull'Iran e sulla Siria. Su tutto. Sulla Siria ci state facendo la capa tanta, sperando che prima o poi facciamo qualcuno la Libia. Ma non lo faremmo, spero. Ma chi? Perché sarebbe un'ennesima porcata di questo sistema. Lei a favore del dittatore Assad? Non sono a favore del dittatore Assad, sarei a favore di una informazione corretta, di una, per esempio, di una delegazione dell'ONU che vada a studiare come stanno le cose. Questi ribelli che improvvisamente escono da tutte le parti con tutte le loro armi, eccetera, eccetera, chi cavolo li arma? Chi sono, secondo lei? Appunto, chi sarebbero? Vediamo un po'. Non avete mai sentito parlare della CIA voi? No. No, sempre la CIA dappertutto. Ma perché? Allora, dice ancora Grillo, scusi un attimo, un giorno ho visto impiccare una persona in Iran su una piazza di Isfahan, ero lì, mi sono chiesto cos'è questa barbarie, ma poi ho pensato agli Stati Uniti, anche loro hanno la pena di morte, hanno messo uno a dieta prima di ucciderlo perché la testa non si staccasse. Soprattutto perché la corda... Ah no, non so. Però paragonare la pena di morte in alcuni stati americani alla pena di morte in Iran. Ma voi siete davvero convinti di essere gli esponenti della civiltà suprema del mondo? Ma no, ma che c'entra? Ma non delle stronzate. Si usa ancora la pena di morte. Fino a 300 anni fa il Vaticano la sosteneva. Dunque è giusta la pena di morte in Iran, dice lei. È giusta la pena di morte in Iran? Non è giusta, semplicemente è un altro tipo di legislazione, ci sono degli altri tribunali, eccetera, eccetera. Ma non come tribunali? Ma non c'è lo Stato di diritto? Ma professore, ma lo insegna lei lo Stato di diritto? Lo Stato di diritto ve lo sognate voi, c'è lo Stato di diritto, c'è in America dove vince chi ha soldi. Ma chi ha più soldi da buttare nella campagna elettorale? Questo è lo Stato di diritto. Certo che c'è. Ma ragazzi, aprite gli occhi. La più grande democrazia del mondo. Professore, arriviamo alla conclusione. Arriviamo alla conclusione su Beppe Grillo. Vabbè, adesso cosa vuol dire? Allora, la grande conclusione su Beppe Grillo, però la voglio sentire. Ha pienamente ragione con questa intervista, lo dica chiaramente. No, abbastanza ragione. Non l'ho sentita tutta, ma le cose che mi avete detto voi sono ragionevoli. Adesso arriverà a sostenere che Monti è messo dal Mossad, vedrai. No, Monti è certamente un emissario delle banche mondiali. Guardate, tutta la sua carriera precedente di dove viene? Non è che sia un servo del Mossad. E gli israeliani che ma ruolo certamente hanno? Certamente un banchiere. L'hanno voluto gli israeliani, magari, Monti. Arriviamo a dire sono questo. Sono contenti anche di quello, naturalmente. Ma chi frega? Lei dice, riprendiamo questo discorso tra un attimo. Gli israeliani sono contenti di Monti. A dopo. Eccoci qui 800 24 00 24, la Zanzara, con noi un grande professore, Gianni Battimo, europarlamentare dell'Italia dei Valori. Scusi professor Battimo, messaggio lei... per Cruciani. Che è successo? Parenzo è qui alla Zanzara perché è voluto dal Mossad. Shalom. Scusi, perché messaggio per Radio 24 Squinzi. Assumere Parenzo, lo vuole il Mossad. Scusi un attimo professor Battimo, perché a parte le ironie di Parenzo Israele dovrebbe essere contento della presenza di Monti al governo? Questo è interessante. Ma nel senso che il governo di Israele non è sicuramente uno di quelli che sostengono le lotte dei popoli per liberarsi dal capitalismo. Ma cosa dice? E fa parte di questo sistema, e quindi siccome Monti è un esponente di questo sistema che cerca di ripararlo, certo. Adesso ho capito perché sostiene i fratelli musulmani. Molto più pericoloso di Berlusconi addirittura. È più pericoloso perché non si vede come si potrebbe scalzarlo. È sostenuto da tutti perché la sua assoluta decorosità, la sua assoluta ricevibilità, la sua assoluta conformità all'ordine esistente ne fa uno che tutti devono accettare. Ma lei si rende conto, professor Vattimo, di quello che sta dicendo? Cioè lei ha detto... Mi volete rimproverare di essere ma no, per carità, ma che è un intellettuale... Cioè lei ha sostenuto nell'ordine che i fratelli musulmani sono meglio di Monti, primo. No, non ha detto questo. Sì. Praticamente ha detto che lì c'è la democrazia e da noi non c'è. Questo però è vero che sono... Beh, da noi c'è, ma è un'altra cosa. E soprattutto qui... non c'è negli Stati Uniti, quella è una schifezza che voi vi credete sempre. Ah, una schifezza. Una chissà come mai, però tutti vogliono andare negli Stati Uniti e nessuno vuole andare in Iran. Ci vada lei in Iran, caro professore, va e rimanga in Iran e vada lì e urli sono omosessuale, vada in Iran e urli sono omosessuale e vada in Israele, vediamo la differenza, vediamo la differenza, caro il professore. Sempre così, caro il professore. Più Israele, no, basta, toglietevi dalla testa. Vada in Iran. Com'è più, com'era la storia più? No, niente. Più seghe, più Israele, non ho capito bene. Mettetela con le leghe, diventate adulti. Ma vada, vada in Iran. Scusi un attimo, ma a proposito, in vada Iran, in Arabia Saudita. Qui, vada lei, vada a vedere. Ma io non voglio andare in Iran, io voglio andare in Israele, nell'Occidente libero, in America. No, ci vada, in America voglio andare, in Italia voglio stare. Vada ad aiutare la costruzione di altri muri in modo che, ma che si porti molto delle biciclette, perché per attraversare tutti quei muri che Israele ha costruito per rendere impossibile la vita dei palestinesi avrà le sue difficoltà, caro signore. Allora, Parenzo, leggi un po' che è successo oggi al processo Bunga Bunga a Milano. Devo ritornare in me. Ronzulli è stata, come dire, europarlamentare l'europarlamentare PDL. Ci ha detto che cos'è il Bunga Bunga, la sala del Bunga Bunga. È stata sentita oggi in aula per il processo Rubi. Intanto ha detto che il famoso Priapo, cioè quella statua con quel pube, come dire, all'insù, quel pube all'insù. No, pube, fallo. Il fallo sì. È la stessa cosa. Allora, sì, insomma, il Priapo, da qui la parola priapismo, che sono quelli che sostanzialmente ce l'hanno. Vabbè, il famoso statuetta, ecco, di Priapo. Lei dice no, non era Priapo, era un dio africano della fertilità, il dio della fertilità di qualche tribù. E siamo come lì. Come credete che gli africani rappresentino il dio della fertilità? Inoltre, appunto, vabbè, però, un grande conoscitore di queste cose, come il professor Battimo. No, non lo so, ma normalmente gli dei della fertilità non si vedeva mica una spiga. Eh no, si vedeva una mela. Si vedeva un fallo, diciamola tutta, si vedeva un fallo. Poi c'è anche la signora Maria Rosaria Rossi. No, e poi secondo il racconto della parlamentare, l'onorevole Ronzulli, quella che è stata definita la sala del Bunga Bunga, in realtà è una classica taverna tipica delle ville lombarde. Questo è possibile. Mi convince, il problema è che c'è un palo nel mezzo, però quello è il problema. Certo, poi c'è anche la signora Maria Rosaria Rossi. Sì, c'era Rossi, certo. Dice: le ragazze si esibivano ad Arcore indossando anche maschere di gomma che raffiguravano Massimo D'Alema. Vabbè. Dunque c'è un nuovo personaggio che è entrato in scena, il signor D'Alema. Ma che roba. Quindi c'era, ripercorriamo un attimo, se non c'era. No, guardi, c'era Obama, c'è un grande esperto, il mitico Will, non leggerlo, che ha messo tutto nel suo blog, ha messo tutta la lista delle maschere esibite in Obama. Quel Obama, forse anche la Merkel salterà fuori tra un po'. Professor Battimo, magari hanno fatto la maschera del professor Battimo. No, quello no, magari non è così. No, purtroppo non sono così noto. Non l'hanno fatto. Senta, ha sentito il signor Cecchi Paone che ha detto qualche giorno fa, Battimo? Sì, ho sentito, ma non so bene che cosa pensarne, perché Cecchi Paone è notoriamente un esibizionista. Ah sì, che sia pure gay non lo salva. Non gli salva l'anima. Lui non dice... tutti i gay sono persone intelligenti. E basta. Poi non so. Eh sì, questo è vero. Cioè le dice che è un gay un po' sbruffone, poco intelligente, un cretino. Per me non è una raccomandazione. No, quello sicuramente, per carità. Cioè non è che lei non fa mica parte di una casta, la casta dei gay. Una casta, poco casta. Ci sono dei casta, quello poco casta non lo so se è poco casta. Casti vostri. Vabbè. No, perché lui ha detto che in nazionale ci sono due omosessuali, un bisessuale e tre metrosexo. Ma lei sapeva questo termine? Metrosexo continua a non capire cosa voglia dire, ma comunque. Però una nuova categoria sessuale, non so, i due omosessuali. Naturalmente tutti siamo curiosissimi, per esempio li riveleranno alla fine della finale che vinceremo noi naturalmente? No, non lo so, questo tocchiamo ferro. Lei tifa Italia? Beh, abbastanza, che volete che tifi? Sì, no, lo so, non so, magari Iran, che ne so io. Che c'è? Non è ammesso. Se no tiferebbe per l'Iran, infatti, no? Beh, no, tifo l'Italia, figuriamoci, sono abbastanza amante del mio paese. C'è Travaglio che tifa per la Germania. Beh, la Germania soprattutto no. No, che ne so, c'è qualcuno che dice che l'Italia è la nazionale degli scommettitori, follia di questo tipo, insomma. Ma quando mai? Ma che vogliamo fare? Ci sono, se ne occupi la magistratura. Ma lei non è mai stato con un calciatore? No, purtroppo. Come purtroppo? Questo è un attimo. Nel senso che magari alcuni mi sarebbero piaciuti. No, chi, quali, non lo so. No, non è mai stato, no. Beh, nel senso che le sarebbe piaciuto perché sono giovani... In teoria sono anche prestanti. Passano la vita a curarsi i muscoli, vediamo un po'. Io adesso vado a fare ogni tanto un po' di ginnastica, mi faccio schifo e quindi... Vabbè, la però, mia reazione è sempre... Però è sempre fidanzato lei, mi sembra, no? No, non sono fidanzato. Si è lasciato? Non mi sono né fidanzato né lasciato. Ah, no, ma dopo la storia sono quella... Single. Dopo ah, la... è single. Ah, è single. Non, dopo quella storia famosa non ha più... Vabbè, comunque. Non era tanto famosa. No, la storia è nota, insomma, no? Basta, smettetela con queste storie frocesche. Sì, basta. Fatevi i fatti vostri. Ma lei, appunto, io non... No, ma al di là delle storie frocesche, io non ho mai capito bene se lei è favorevole o no al matrimonio omosessuale. Noi siamo molto fissati su questo. Noi, lei, cioè, io sono abbastanza fissato. Sono favorevole alla unione civili, a qualche regolamento legale di queste unioni, perché ci sono degli abusi tremendi quando... Sì. Insomma, quando due vivono insieme per tanto tempo, hanno messo insieme una sostanza... E il matrimonio? Eccetera, eccetera. Il matrimonio non so se si possa chiamare matrimonio, a me andrebbe bene anche così, non me ne importa niente, ma non mi sembra neanche una cosa tanto, visto come vanno male i matrimoni in generale, perché portarsi sfiga così? Cioè dice proprio della questione del matrimonio a lei non gliene può fregare di meno, diciamo la verità, insomma. No, non me ne importa, mi importa no, seriamente, che ci siano delle forme di legalizzazione di questi rapporti, sì. Perché ci sono dei problemi di proprietà, di assistenza, di chi decide se mi debbono curare, sì, sì. Finché il vescovo lo vuole. Però questo si no. può risolvere anche senza fare una legge sulle unioni, eccetera. Beh, non lo so, perché andare dai notai in genere costa. Siete mai andati da un notaio? Come sì, no, certo. Ammazza, come no. Provate. È tremendo. Professorino, non ho capito lei, però, che ormai dopo questa esperienza al Parlamento Europeo con l'Italia dei Valori, ormai basta, no? Cioè, non cosa è che... ormai? Cosa vuol dire ormai? Cioè, ormai basta, cioè, pensa di fare di nuovo no, politica. Se non lo dici Italia dei Valori, io sono contento di... Per l'insistenza di alcuni amici potrei continuare, ma non sono sicuro che gli amici siano di questa opinione. Ma lei ha rapporti con Di Pietro? Ci parla ogni tanto o mai. No? O mai? Sì, insomma, gli voglio molto bene, Di Pietro è una persona... Una persona squisita. Ma il PD ormai lo vogliono, lo sa che no? Ormai sono ai ferri corti con Bersani. Vabbè, grazie, perché Bersani è sempre più preda dei suoi fantasmi. Adesso vuole fare un accordo con Casini. Pare che Casini, no, con questa intervista di oggi ma del Corriere della Sera, no. Fuori Di Pietro, insomma, no? Emarginato Di Pietro. Appunto, se questo succede così, sarà un guaio anche per l'Italia, perché. Del resto il Partito Democratico ha un istinto suicida sicuro. Perché lei dice che mettersi con Casini è da suicidio. Certo, direi più o meno. Senta, l'ultima cosa, ma di Renzi come ne parla? Cosa ne pensa? Ah, mi è simpatico genericamente, però preferisco Civati. Ah, preferisce Civati, come mai? Le piace di più, dice... No, Renzi mi sembra un po' troppo vacuo, però non lo conosco, non... Finché uno si agita in quel partito lì, o lo cambia davvero, oppure diventa uno delle pedine di un gioco che a me non piace più. Vabbè, anche Civati è dentro il Partito Democratico. Civati è un po' più serio, poi lo conosco di più, l'ho incontrato a Napoli quando siamo andati a sostenere De Magistris. Che dire, di Renzi so solo quello che leggo quello che sui giornali e non mi persuade tanto. Professore, buona serata. Va bene, ci vediamo in Iran. A presto, pubblicità. Eccoci qui, 2011 800 24 0024, Attilio da Monza, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io volevo parlare sia con lei che con Parenzo, però prima volevo parlare con Parenzo. Sì. Le volevo chiedere a Parenzo, ma lei non è in grado di affrontare una discussione un po' più, come dire, normale, più pacata, sì, senza sovrapporre la voce, senza dover sbeffeggiare chi non la pensa come lei? No, oggi sono molto arrabbiato, chiedo scusi, adesso ci provo. Però quando sento certe cose mi va il sangue al cervello. Quando sento le logiche dell'Iran... Ho capito, ma lei è proprio uno di quelli che proclama la libertà di parola, lei deve lasciare parlare, ognuno deve esprimere il proprio pensiero. Infatti, mi va il sangue al cervello alle volte quando sono delle... Comunque chiedo scusa, prego, scusi. No, vabbè, già il fatto che chiede scusa mi sorprende. Cioè, sì, però mi incazzo alle volte. No, vabbè, sai perché? Perché siccome la seguo da tantissimo e questa cosa accade normalmente, ma chi non la pensa come lei non riesce... Cioè, lei proclama, diciamo, i concetti di sinistra e praticamente fa le cose di destra. È una cosa incredibile. Vabbè. Quindi la invito praticamente a essere più pacato, perché sai che mi ricorda a me? Quando ero più giovane mi ricorda gli amici, quelli, i soliti figli di papà, che poi guarda caso votano comunista, non sanno cosa voglia dire essere un comunista operaio, che però sono i figli viziati che sovrappongono la voce, sbeffeggiano quando non sono capaci di averne ragione. Però vabbè, aspetta a vedere se può migliorare. Va bene. In quanto lei è Cruciani, sai che da quando è insieme a Prenzio è veramente peggiorato di brutto? Dice, la faccio lei. Dice, in che cosa sono peggiorato? Ma sì, ma perché praticamente... se ogni tanto praticamente non riesce a dire, non riesce più a dire la sua, con Parenzo, sa che Parenzo lo sovrappone, cioè riesce. Ma io dico sempre la mia, guardi, non si preoccupi. No, non ce la fa, non ce la fa. Ma come non ce la faccio? Cioè, ma le dico che dico la, cioè, la, dico la mia tranquillamente, non si preoccupi. No, no, non ce la fa, glielo dico io la seguo veramente da qualche anno, da quando c'è Parenzo si è come dire sinistrizzato, si è. Ma quale sinistrizzato? Si è ignorentato, cioè terminologie sono tutte queste che possono identificare che non riesce ad avere più la sua idea. Sì. E mi è sempre piaciuto perché era, dico, finalmente uno coi coglioni, sì. Uno che dice la sua, destra, sinistra, infatti mi piace perché lei bastona a destra e a sinistra. Guardi dice, che cosa dico Parenzo, adesso. Parenzo bastona solo a destra, perché no, basta che guardi. Non capisce più un cazzo. Invece lei mi piace per quello, però da quando c'è come Parenzo dice, scusi? Si sta mitizzando, si sta parenzizzando, ecco, trovo una terminologia che sì. La possa identificare, ma è quello il concetto. Grazie. Bene, grazie Attilio. Guardi che cosa dico subito, che al Senato hanno assunto come consulente, pare solamente con un rimborso di 1000 euro al mese, l'ex sindaco di Palermo Diego Cammarata, che va a Roma alle dipendenze del signor Cicolani, uno dei questori del Senato, ma per raccomandazione tra virgolette del presidente del Senato Schifani, per sanare i bilanci comunali, cioè praticamente per fare la spending review degli enti locali, proprio a lui che ha lasciato Palermo piena di debiti. Qualcuno ha detto come affidare la gestione dell'Avis a Dracula, chiamato da Schifani. Cammarata, Diego Cammarata, Enzo da Milano. Sì, buonasera. Dica. Io sono un po' d'accordo con quello che diceva poc'anzi l'ascoltatore. Quando Parenzo è alla 7 è sempre tutto tranquillo, sereno. Quando da lei si sfoga, ma posso capirlo. Alla radio nessuno la vede, ma va bene così, fa parte del gioco. Una cosa che devo, perché non avete mandato l'ambulanza per quel pappagone che ha chiamato oggi da Treviso, che ha detto un sacco di stronzate, Gentilini, no? Quel pappagone lì, che non so, dategli fuoco, per regalare io la benzina. Ma quale fuoco, la smetta. Fuoco nel senso metaforico, adesso non facciamo le prime donne. Comunque, cioè, è impossibile sentire in questo paese una persona che ha ricoperto incarichi pubblici dire queste stronzate. Si dovrebbe solo vergognare. Per esempio, cosa ha detto? Mi ma spieghi. Ma sì, i gialli, i neri, ma dove cavolo vive questa persona? Ancora nel Regno Lombardo-Veneto? Ma non ho capito io. Ma dove stiamo arrivando? La razza pura di Gentilini. Ma quella Dux. Razza pura, quella di pura non c'ha manco il cervello. Ma che cosa stiamo dicendo? Il è un pappagone, è un pappagone. Cosa vuol dire pappagone? Ma che vuol dire pappagone? Scusi. Ma pappagone vuol dire che è un buffone. Di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Questo poi vuole la Padania e parla italiano, ma parla veneto. Questi padani che fanno tutti i padani. Ma guardi che Gentilini, Veneto, Gentilini non vuole la Padania in realtà. Sì, vabbè, vuole la secessione, ma di che cosa stiamo parlando? No, anzi, ha detto altro. Ma è un pappagone comunque, quindi dategli fuoco, la benzina me la regalo io. Va bene Enzo, grazie. Franco da Parma. Franco? Pronto? Dica. Sì. Io volevo intervenire sulle elezioni di Parma. Che vuole dire sulle elezioni di Parma? C'è stata una grande vittoria di Grillo. Sì, allora? Lo sappiamo. Sì. Allora ci siamo trovati un democristiano. Non è democristiano, ma fa come se fosse un democristiano. Cioè, perché ci mette un sacco di tempo a fare la giunta? Perché no, uno, per quale motivo? Perché aspetta? Perché è un pragmatico? Parla, che è? Cioè, i parmigiani volevano una rivoluzione, volevano qualcosa di nuovo, di diverso. Invece si trovano con uno che ha detto delle cose, adesso farà quello che avrebbe fatto la destra o la sinistra comunque. Lei dice, ma però sono passati 2-3 mesi, bisogna dare tempo, Magari la grande rivoluzione grillina di Parma arriverà, chissà. Traffico, torniamo subito. Sì, traffico. Eccoci qui, 20:17, Francesco, provincia di Forlì, buonasera. Buonasera. Vada. Senta, io dopo quello che ho sentito di Beppe Grillo, quello che devo dire mi sembra un pochettino banale, comunque lo dico. Sì. Non sono un grande appassionato di calcio, però ieri sera ero in viaggio e sentivo la radiocronaca della partita e sono invece un grande ascoltatore della vostra trasmissione. Nella vostra trasmissione avevo colto tempo fa i commenti di Cassano a proposito di alcuni suoi colleghi di gioco. Sì. Ieri sera, ripeto, io Cassano non è che Cassano l'ha detto qui, l'ha detto in una conferenza stampa. Ha detto una conferenza, sì, però io sentendo la radio avevo sì, allora? Non sono uno che si interessa di Cassano, però sentendo voi avevo sentito questa cosa. Beh, non bisogna interessarsi di Cassano, basta leggere le prime pagine di tutti i giornali italiani. Io non leggo, cioè non esatto, non legge i giornali, mi è capitato di leggerlo. La cosa che mi ha stupito ieri, sentendo il cronista, ripeto, io non sono un appassionato, che a un certo punto dice, verso la fine, Cassano che non regge tutta la partita, perché non so, ho fatto un commento su quella che poteva essere una sorta di... Vabbè, allora? Debolezza. E allora dicevo, poi siccome la partita è andata come è andata, volevo poter dire a Cassano che grazie forse alle altre figure che lui così ha in qualche modo presentato, che la partita è andata come è andata. Quindi dobbiamo ringraziare le altre persone, non il suo macismo sostanzialmente. Ma che vuol dire, scusi? Francesco. Io non ho capito. No, siccome ha detto che... quello che ha detto sui gay, esatto. E ieri invece poi non è stato determinante, dunque cosa la conclusione no, qual non è? È stato determinante, è stato determinante il risultato della squadra, all'interno allora... della quale ci sono quelli che lui dice gay, che si sono dimostrati. Ma chi l'ha detto? Lui non lo dice per niente, non lo dice per niente. Francesco, lei non ha capito assolutamente nulla. Alessandro da Milano, non ha capito niente. Alessandro da Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, buonasera. Dica. Parenzo. Sì. Volevo intervenire su Vattimo. È veramente triste riascoltare ancora queste teorie trite e ritrite. Bravo. Se non ci fosse stati gli americani, io in quanto ebreo e lui in quanto omosessuale, non ci saremmo adesso. Solo questo. Poi sentire Grillo col suocero di terra. Basta. Il suocero peraltro che costruisce autostrade, sì, le autostrade potrebbe fare ministro dei trasporti. Tanto vituperate dallo stesso Grillo. In Italia le costruisce le autostrade. No, in Iran. E niente. Tanti auguri. Luigi da Padova. Buonasera. Mi sentite? Pronto? Sì, sì, la sentiamo Luigi, vada. Sì, sì, sì. No, premesso che mi piace molto la Zanzara perché siete una trasmissione vera e autentica. Volevo solo osservare a Parenzo che se uno di noi chiama e dice una stronzata, voi lo stoppate subito. Chiama il professor Vattimo che ha detto effettivamente cose gravi, oltre che stronzate, lo avete lasciato argomentare con molta per fargli dire sempre più bestialità. Ho imparato anch'io la lezione. Per fargli dire sempre più bestialità, qual è il problema, Luigi? Ancora non ha capito qual è la tecnica. Siccome si è detto pochi minuti, 20 minuti fa, si parlava del titolo di studio, scuole serali o altre cose. È vero che i cittadini a volte intervengono e dicono cazzate, stronzate o cose anche sciocche, nel senso non ben supportate, però ho avuto piacere di ascoltare Vattimo, così ho capito che è una persona che non merita, che non è condivisibile. Però ecco, osservo solo su questo che quando un cittadino, magari nella sua semplicità, dice cose... Ma perché deve fare questi paragoni? Noi abbiamo lasciato parlare Vattimo sull'Israele, sull'Iran, sugli Stati Uniti, quello che voleva, un po' per mettere in evidenza tutto quello che voleva dire, cioè tutte, secondo me, le bestialità che dice sugli Stati Uniti, che non sono una democrazia, più democrazia l'Iran deve avere l'atomica, la pena di morte in Iran, sì, ma chi se ne frega, è una legislazione differente dalla nostra, questo ha detto il signor professor Vattimo. Un borghezio al giorno toglie la depressione di torno. Ah, ce n'è un altro? Gli accordi, no, sentiamo questo. Trattativa Stato-mafia, borghezio. Mentre la gente onesta, ce n'è anche nel sud, moriva per opporsi alla mafia, lo Stato dei suoi vertici massimi faceva accordi perché gli bruciava il culo e pensavano che i mafiosi avrebbero cominciato ad ammazzare anche loro che erano chiaramente a libro paga delle cosche mafiose. Che non è che c'è una trattativa Stato-mafia, è che lo Stato, almeno per lungo periodo, per lunghi decenni in Italia, è la mafia. Tornare a fare paura, non a fare la maglia. Dobbiamo reagire, perché questo ci ha insegnato quando siamo entrati nella Lega, Bossi, e quelli che erano con lui, e io ci ho creduto perché era gente coi coglioni. Noi dobbiamo tornare a essere quelli che fanno paura a Roma la droga, altrimenti torniamo a casa, facciamo la maglia, non siamo dei combattenti. Accordi con Roma? Manco per niente, anzi non dice proprio così, eh. Immagino. Magari qualcuno si è un po' adattato, si è un po' convinto che si possa risolvere i problemi d'accordo con Roma. Manco per il cazzo! I nostri problemi si risolvono bruciando Roma la droga, combattendo tutti i giorni con le nostre bandiere, rompendo i coglioni, facendoci rispettare sul nostro territorio. E quale sarà la grande novità politica di Bossi? Secondo me è quella annunciata da Zaia pochi giorni fa. Paghiamoci il debito, poi fuori dalle palle. Cioè, secondo Bossi, la Padania, la cosiddetta e inesistente Padania, potrebbe pagarsi il debito, secondo un calcolo tutto particolare. Soldi di chi? Comprare una parte del debito dell'Italia, non so, non sono tutte cose vaghe, e dunque rendersi indipendente. Sentiamo. Noi facciamo una proposta, perché siccome non siamo dei delinquenti, conosciamo la solidarietà e la sussidiarietà nazionale, diciamo, dividiamoci il debito pubblico. Il Veneto si porta a casa la sua festa. Io ho fatto due conti, in una trentina d'anni con mutuetto che ci faremo, anche abbassando le tasse i 20 ce lo paghiamo, però voi fuori dalle palle poi. Va bene, Alfredo da Roma. Ma... buonasera, Alfredo. È un'idea. Ciao, buonasera. No, io avevo chiamato prima per l'intervento di Volpe. Mi sarebbe piaciuto che qualcuno gli avesse chiesto come mai lui diceva di Gasparri che è tutta gente vecchia, datata, e propone Berlusconi, che mi sembra altrettanto datato. Ma lui non ne fa una questione di carta d'identità, eh? Però comunque di non datato di presenza, diciamo, nella scena politica, era un po' questo, mi sembra un'incoerenza che forse andrebbe sottolineata. E comunque complimenti per la trasmissione, perché siete bravi, però questa cosa mi sarebbe piaciuto chiedergliela. Sì, ma guardi, il problema non è far notare a Volpe Pasini che alcuni, che quelli che lui chiama vecchietti, in realtà poi Berlusconi è vecchietto pure lui. Sì, ma non per il fatto dei 70 anni, cioè per il fatto che dire va benissimo proporre novità, ma allora proporre anche un premier novità, a parlare di proporre novità e poi... Ma lui dice che Berlusconi ha i voti, ha ancora il consenso e dunque non si vede perché non si vede perché non possa ancora candidarsi. Vabbè, mi sembrava solo un'incoerenza, mi sarebbe piaciuto far sottolineare. Va bene, Renato da Rimini, buonasera, Renato. No, io volevo dire a Parenzo che l'unica bomba atomica, o le due bombe atomiche, Hiroshima e Nagasaki, l'hanno usata la più grande democrazia del mondo. Un dibattito vecchio, vecchio, stanco e vecchio, cosa c'entra? Scusi, ma abbi pazienza, ma se è vecchio non infatti, se ne può parlare. Se ne discute storicamente, qualcuno dice che è un evento, no, scusi, lei, siccome ha detto è un evento che tragico che fece finire una guerra, ma non è questo il tema oggi, no, non mi c'entra, scusi, nulla. Mi può far parlare, per cortesia, le chiedo se mi può far parlare. Siccome sì, ma lei ha già detto quello che pensa, che gli unici che hanno tirato le bombe atomiche sono stati gli americani a Hiroshima e Nagasaki. Abbiamo capito. La grande democrazia. Benissimo, sì, certo. Un discorso, come ha detto Parenzo, vecchio, in un altro contesto, altra epoca. Qualcuno discute. Vabbè, a voi sto proprio di un altro contesto. Io roba di libri di storia, roba per libri di storia. Scusi, mi faccia parlare, per cortesia. Ma lei ha parlato, ha detto come la pensa. Ma non mi trascinerà a difendere l'atomica degli Stati Uniti. No, mi faccia finire, per cortesia, una supplica. Io la difendo, invece. Allora... gli Stati Uniti, che sono la più grande democrazia, Parenzo ha detto che un paese dove c'è la dittatura è pericoloso. La Russia, la Cina, che sono paesi di dittatura, non l'ha mai usata. Parenzo ha detto, vai in Iran a fare l'omosessuale. Sì. Io le dico a Parenzo, vada in America a fare il comunista. Oppure, ma io non sono comunista, ma non c'è problema. No, scusi, mi faccia finire, abbia pazienza. Oppure vada a New York, o in una città americana, sì, in una bidonville, a fare le sue vacanze. E lì capirà cos'è la democrazia americana. Insomma, signore, siete due giornalisti, informate, non disinformate. Informiamoci. Pazienza. Bravo Renato, grazie. Simone dalla provincia di Milano. Paragone della bidonville. Non sì, buonasera. Sì, vada. Niente, allora, innanzitutto in merito alla bomba atomica americana, io se devo essere sincero comincerei a tirarne anche qualcuna, non so, tipo Iran, Afghanistan, tanto. Però Simone, la bomba atomica tutta americana, gente, di che stiamo parlando? Su basta. Simone, vada al sodo, di che vuole parlare? Tutta gente che può scomparire dalla terra, sono popolazioni che tanto non servono a niente. Ma quali sarebbero le popolazioni che non servono a niente? Scusi. Iran, Afghanistan, non so, paesi musulmani. Bombe atomiche su tutti i paesi musulmani. Sì, la follia. Tutti, Simone. 20 e 29, certo. No? 20 e 27. Anzi, se io chiamavo, sì, mandatela subito. Era abbastanza... Sì, sì, mandiamo. Esatto, su Gentilini, perché Gentilini. Dicono la verità che c'è questa nuova... un po' questa idea fascioleghista che secondo me funziona bene. Fascioleghista, sì. Dov'è lei adesso intanto comunque? Sono a casa. Sì, allora si distenda. Con la mia famiglia, con i miei bambini. Lei Parenzo potrà dire quello che vuole dell'ambulanza. Ma l'ambulanza io la porterei per lei che vuole... sa, tutte queste civiltà mischiate, omosessuali dappertutto. Così prende, va in un paese dove quello è possibile. Siamo vicini. Contento, nella mia visione non ci sono. Si ha ragione. E gli omosessuali nella sua visione dove sono? Dove sono? Gli omosessuali sono fuori, presto, completamente fuori. Fuori. Chiaro, perché io, cioè dove, scusi? I miei bimbi in una scuola. I suoi bimbi in una scuola. Dica, dica, stiamo arrivando. Possono, possono stare tranquillamente a casa loro. A casa loro. A, devono fare, a scuola no. Però sì. In giro no. No. Chiaro, in giro no. Io a scuola, i, giusto, i miei figli, certo, insieme a due papà o a due mamme. Non li manda. Non li mando. No, intanto noi mandiamo una macchina. Come e poi... non li mando, come non li mando neanche insieme, non so, a extracomunitari vari, certo, eccetera. Scusi, dove vive lei? Scusi, dove vive? In un ghetto? Tanto... Dove vive? In un ghetto fatto di bianchi e di tutti eterosessuali? No, dove? Guardi, io abito a Sesto San Giovanni. Ecco, i froci sono intorno a lei, no? Simone. I froci sono vicini a lei, abitano accanto a lei, al piano superiore. I froci. No, no, no, mi dispiace. Sì, i froci, mi dispiace per lei, lei non lo sa, ma al piano superiore, al terzo, a che piano abita? All'ultimo, al terzo. All'ultimo, al terzo, al secondo ci sono i froci, glielo dico io. No, no, no. Sì, sì, famiglia, sì. Lei non ma che è pieno di froci. Ma lei non vive in una torre borsa, borsa, borsa. Eccoci, eccoci qui, 20 e 33, 800 24 00 24. L'ascoltatore di prima, lo voglio assolutamente, signore della provincia di Milano, da Sesto San Giovanni, quello che vive nella Torre Eburnea, quello che nella Torre Eburnea immagina di vivere in un mondo dove non ci sono omosessuali, dove non ci sono extracomunitari, e vuole che i suoi figli vadano in scuole dove non si vede nulla di diverso dal suo prototipo di famiglia e di società. Adesso lo richiamiamo, chissà se le linee telefoniche funzionano lì in questo mondo fatato. Simone da Vicenza, buonasera. Sì, che non è Simone di prima, eh? Non è Simone, no, da Sesto San Giovanni. Sono un altro, sono un altro. Lui non sa, il caro amico da Sesto San Giovanni, se ci ascolta, che lui abita al terzo piano, ma al secondo e al primo è pieno di froci, no, è pieno di omosessuali. Perché, ma anche immigrati. Anche immigrati, è pieno, intorno a lui, è pieno di immigrati e di froci, io dico froci. Personalmente è una cosa che non mi tange, anzi. Cioè, in che senso, scusi? No, io volevo chiamavo Santo per intanto buonasera a tutti e due. Chiamavo per il pezzo che avete fatto sentire del presidente Zaia della Regione Veneto, che proponeva questa cosa che voi dite assurda. Ma sì, su, ma pagare, non scherziamo, pagarsi il debito, no, e rendersi più indipendenti, più, no, autonomi. Le dico una cosa, è già successo. Cecoslovacchia si è divisa con la famosa rivoluzione di velluto, facendo così. I cechi hanno pagato. Ho capito, il ma lì, agli slovacchi. Un attimo, ma la storia non è mai uguale. Non, chiaro, è che si possono ripetere le stesse cose. Chiaro, quella era la Cecoslovacchia, lo dice la parola stessa. La Cecoslovacchia, certo, fatta dalla Slovacchia e dalla Repubblica Ceca. Si parla di due realtà molto diverse. Dopo. L'Italia è composta da realtà tanto quanto diverse. Quindi, sì, ma realtà diverse non c'è dubbio, però il punto fondamentale è che questa cosa del debito, secondo me, non sta né in cielo né in terra. Guardi, io non essendo un economista, posso dire, non so gli economics che ci stanno dietro e se è veramente possibile. So che Zaia è una persona... Ma sì, per carità, una persona anche moderata. Se lui dice una cosa del genere, e ha fatto, come dice lui, ha fatto i conti a casa, ha detto, perché, chiediamogli sinceramente, ha fatto i conti? Cosa dicono i conti? Chiediamo, vediamo se è possibile. Poi lo scambio è decidiamo noi l'imposizione fiscale, altre cose, e in cambio diamo allo Stato la parte quota del debito del Veneto, diciamo, per riferito per ai Veneti. Per assurdo, la Slovacchia, dopo questa cosa, sì, cioè, però le posso dire che secondo me... È venuta molto più fuori, cioè è diventata, per assurdo, un paese più sviluppato economicamente delle altre. Le posso dire che secondo me è una roba cioè che nessuno può accettare, perché a quel punto si va dritti verso l'indipendenza del Veneto. Certo. Cioè questo è il punto. Credo che sia proprio quello che Zaia vuole. Ho capito, va bene, diverso. Cioè, allora lo dica apertamente, voglio il Veneto indipendente, il Veneto Stato, senza troppe cose, certo, pagare ma, il debito, voglio il Veneto Stato. Quello può essere un modo per il Veneto di in qualche modo fare una rivoluzione anche di velluto, quindi senza armi, senza campanili, senza tanchi in piazza San Marco, tanchi, però farla una cosa... i famosi, quelli che lei chiama tanchi, che sono i tank, cioè i carri armati. Penso che sia un momento superato nella Lega, c'è qualcuno che magari pensa una cosa di questo tipo. Ma questo non glielo so dire io. Cioè, che a lei piacciono i tank, per caso? Piacciono i carri armati, caro Simone? A me piacevano da bambino, quando giocavo con i soldatini. Ah, ecco, bravo, ecco. Bravo. Adesso... Intanto è tornato l'altro Simone dalla provincia di Milano, dal stesso San Giovanni. Ah, quello che ha i frosci al terzo piano e non lo sa, al secondo piano non lo sa. Simone? Sì, tanto non è vero, sono arcisicuro, quindi Cruciani stia tranquillo. Ma se non ce l'ha al secondo, ce l'avrà al primo, caro Simone? No, no, neanche. No, ma guardi che, Cruciani, cerchiamo di... so che alla radio magari l'intervento deve essere breve. Ma no, questo è di breve. Lei è andato benissimo. Il punto fondamentale è che ha detto delle cose assurde. Lei immagina per i suoi figli un mondo. No, lei immagina per i suoi figli un mondo dove non ci sono omosessuali, non ci sono immigrati. Ma di che parliamo? No. Beh, dove sono gli immigrati, quello diciamo che... più stanno lontani meglio è. Più stanno lontani meglio è, benissimo. Invece gli omosessuali, lei è proprio una bella persona, lo ancora peggio. Allora ripeto, io non ho nulla. Si dice sempre così, no? Però no, mi devono stare lontani. Però se permette, no? Sì. Posso esprimere un giudizio secondo il quale, secondo la mia persona, no? Preferisco non vederli, non so, che magari. Ma lei ce li ha di fronte? Per strada, si bagnano per strada. Io, guardi, si baciano per strada. Ma chi? No? Gli immigrati? È un grande gesto d'amore il bacio tra due omosessuali per strada, un gesto d'amore meraviglioso. Se per loro va bene così, per me no. E se preferisce, posso scegliere di avere ma no, una lei visione non può scegliere. Diversa dalla vostra. Lei non può scegliere. Ma lei vive in questo mondo, non nella torre Eburnea. Ma non ha... Non vive in qualche, Pareto, in qualche Pareto, stato Pareto, sudafricano. Vedi, è un po', vedi, è un po' come il discorso degli immigrati, no? Sono tutti disposti, no? Perché poi dopo la sostanza del discorso è questa, no? Sono tutti che dicono sì, gli immigrati. Guardi che io non ce l'ho contro gli immigrati. No. Bisogna sempre, no? Attenzione, bisogna sempre definire bene cosa si intende per immigrati. Se si intende per immigrati delle persone che arrivano a casa nostra. Che vogliono impadronirsi di quelle che sono le nostre regole. Ma che vuol dire impadronirsi delle nostre regole? Certo, ma dove sono finite quelle persone col camice? No, chiedo scusa, sono arrivati per caso quei... No, sono arrivati, Parenzo, perché magari vengono a prendere lei. No, ma apra la porta. Stia fermo un attimo, che abbiamo un ospite. C'è il campanello? Che c'è il campanello, che presentiamo in questo modo. Campanello, Simone, stia fermo lì. Vivere è passato tanto tempo. Vivere è un ricordo senza tempo. Vivere. Abbiamo vissuto con lui grandi momenti radiofonici, Parenzo. Grandi momenti radiofonici. E non è quello che vi immaginate. Non è chi vi immaginate. Molto di più. Vivere e sorridere. È un eurodeputato. Vivere. Voi direte Vasco Rossi è diventato eurodeputato? No. È un ricordo senza tempo. Vivere. Perché in realtà è uguale. Naturalmente parliamo di Tiziano Motti. Buonasera. Caro Motti, come sta? UDC. Buonasera a voi, sto benissimo, vi sento in gran forma, quindi stiamo tutti bene. Combattiamo come al solito. Senta però, che mi ha combinato lei? Ha fatto una proposta che mi sembra... aggiorni, signor Cruciani, che ha fatto? Allora, te lo dico io, Parenzo, tu non sei informato. Mai oggi. Niente. Allora, in previsione della partita Italia-Germania di giovedì... Sì, 20:45. Giovedì 20:45, l'onorevole Tiziano Motti, europarlamentare dell'UDC, propone che l'Italia giochi con il lutto al braccio. Perché il lutto al braccio? Chi è morto? Nessuno. Ve lo spiego io? No, io spieghi lei a Parenzo che non lo sa. A Parenzo lo spiego io. Beh, ovviamente è una richiesta provocatoria, però... Beh, come provocatoria? Chi è morto? No, provocatoria perché so perfettamente che la nostra nazionale non farà nulla del genere perché non si fa, tra virgolette. Ma io ci terrei, sarebbe veramente un bel gesto nei confronti di tutti quegli italiani, e non solo italiani, che sono rimasti impressionati dalla strage di cani, gatti e randagi che è stata operata dalle autorità ucraine, perché ormai credo tutti sappiano che sono stati uccisi barbaramente, anche bruciati vivi, insomma, questi animali. Ma su questo non c'è dubbio. Allora lei dice l'Italia provocatoriamente dovrebbe giocare con il lutto al braccio per solidarietà nei confronti... A parte che si gioca in Polonia, comunque vabbè, lasciamo perdere questo. Sì, vabbè, però noi sappiamo poi che questi campionati sono... Che c'è grande attenzione per Italia-Germania, naturalmente. Esatto. E senza dubbio questo non sarà fatto, ma sarebbe stato veramente un gesto di solidarietà importante, anche di vicinanza con tanti italiani che avrebbero voluto almeno sentire una parola su questa cosa. Lei è animalista, signor Motti? Sono animalista. Cioè, animali a casa? 100%. Ho sei bellissimi gatti, tutti trovatelli. Sei gatti? Sì. Di varietà. Cioè, è una specie di gattaro lei. Ma vede, essendo sempre a Bruxelles e Strasburgo, i cani avrebbero sofferto di un amico padrone che non c'è mai. I gatti invece sono molto più autonomi e quindi si accontentano di me quando ci sono. Allora, Tiziano Motti con sei gatti dice all'Italia: giocate con tutto il braccio, perché in Ucraina ne hanno combinati di tutti i colori. Però io le dico una cosa, onorevole Motti. Io so che dirò una cosa molto impopolare, molto molto impopolare. Parenzo, la posso dire o mi si scatena contro la canea? Non lo so, secondo me si scatena contro... Cioè, allora, posso io intuire sono cosa uno che ha grande rispetto degli animali, grandissimo rispetto degli animali. Io ho un amore per però i cani. Però devo dire la verità che fino al primo luglio, poi magari mi batterò con tutte le forze contro l'uccisione dei cani, dei gatti, quello che vogliamo, però io fino al primo luglio... Non riesco a pensarci, non me ne può fregare di meno. Io non è che dico non me ne può fregare di meno perché non mi interessa dei cani e dei gatti, dico che non riesco ad appassionarmi, cioè vedo il calcio e poi dal primo luglio magari ci faccio ma un pensiero. Lo sappiamo tutti, ma lo sanno anche quegli italiani che hanno detto noi non dovremmo andare là a giocare, ma non si può chiedere a una squadra di calcio di non partecipare, cioè lo si può fare moralmente, ma dobbiamo tutti renderci conto che i campionati sono campionati, il business è business. Ma quanti cani sono morti in questa strage in Ucraina? Purtroppo non glielo so non dire. Sappiamo. Ma come no? Ha fatto sta proposta, non ci sa dire il numero. È una strage, ma occupiamoci anche dei cani, dei gatti, dei randaggi italiani, perché poi la situazione dei canili italiani non è delle più floride, cioè si piange, si dice che non ci sono i soldi neppure. Allora ogni politico lancia questa proposta, ogni politico, ogni eurodeputato adotti un cane. No, ma quello sono pochi però, sono 70. Guarda, diamoci da fare 70. Al di là delle adozioni, perché poi giustamente ognuno in casa sua fa quello che riesce, fa quello che può. Diamoci da fare per dare una tutela reale a questi animali. E poi io in genere quando parlo degli animali la prima cosa che mi viene detta è: ma preoccupati anche degli umani, dei bambini, delle donne. Ma io sto cercando di farlo, voglio dire. Ma questo qua, queste cose qua, questo non lo capisco neanche. Anch'io, ognuno si batte per gli animali, punto e basta. Che significa? Ognuno si batte per le cose che ritiene. Scusi, però io due cose velocemente. Diritti di tutti. Certo, onorevole Motti, due cose. Allora, la prima è questa. Oggi il leader del suo partito, signor Casini, in un'intervista quella sera ha detto: beh, insomma, Bersani, c'è stato una sorta di grande avvicinamento a Bersani. Qualcuno dice, ma insomma, una sorta di unione innaturale, coppia. Ero in metropolitana prima, non c'è, nell'ora di punta, non c'era persona che non parlasse di questo. Dici di questo? Tutti si interrogano. Casini ha detto che si allea con Bersani. Allora, se è un'unione innaturale, non piacerà al nostro amico che voleva un mondo tutto suo. Accidenti. Ecco, ma se lei, lei come la considera, un'unione naturale o innaturale? Ma guardi, prima di tutto, come lei ben sa, io non sono. Il mio leader Pier Ferdinando Casini, e quindi lavoro a Bruxelles e a Strasburgo. Però una parolina la può dire: un'unione naturale o innaturale, senza fare il politichese, però senza usare il politichese. Io sono tutt'altro. Non gliene frega nulla, diciamolo chiaramente. Quello che posso dirle è che per il bene dei cittadini non esiste un'unione che sia innaturale, se è un'unione che può portare beneficio agli italiani. Quindi credo che in questa direzione, se ci sono unioni di intenti, lei lo sa per primo, no? Come è stata la mia campagna elettorale e come è stato il mio avvento in politica. Credo che su molti fronti, per quanto rimangano ovviamente rimanga un atteggiamento di rispetto alle ideologie, si possa lavorare per il bene comune. Ma lei ci si vede insieme, lei, signor Motti, si vede insieme alla sinistra o no, al Partito Democratico? Mi dica la verità. Io mi vedo, guardi. Non mi dica con i cittadini, con le cose, questo è scontato. Si vede ma poi dopo quando parlo mi dite che sto dicendo delle cose. No, per carità. Ma è ovvio che un politico si vede più insieme a Bersani o insieme ad Alfano? Come sensibilità, come lei? Motti. Io non sono un deputato italiano, non posso esprimere, non sono leader del mio partito, non posso dare. Io ma Parenzo è disperato per la sua. Ma non è che non è che le sparano in piazza Tahir se lei dice che è più vicino ad Alfano piuttosto che a un altro. Cioè... Ci sono delle operazioni che in taluni momenti storici vanno fatte nell'interesse comune. Sì, di chi parla? Cioè lei in questo momento. Adesso non sto parlando di nessuno, voi mi chiedete. Niente, non vuole rispondere. Un avvicinamento a Bersani è qualcosa. qualcosa di positivo, potrebbe esserlo chiaramente. E anche un avvicinamento al Fano potrebbe essere positivo per il futuro del paese, giusto? Che questo? Il sostegno al governo tecnico attuale, tutto sommato, non è molto diverso. No? Sì, lei vorrebbe continuare anche dopo? Vorrebbe continuare anche dopo? Ma io vorrei rendermi conto di quello che accadrà tra qui a un anno, perché di scuro non voteremo ad ottobre, quindi c'è tempo per meditare su quello che di cui ha bisogno veramente l'Italia, credo. Motti, lei è perfetto per la politica. Per l'UDC no, per la politica. Vado a cantare, cosa dite? Senta un attimo, Vasco Rossi è più vicino a Bersani o ad Alfano, secondo lei? Credo a Bersani, sicuramente a Bersani. Dunque lei è un po'... Lei ha quest'anima... anche la mia campagna elettorale, devo dire, sono molto soddisfatto di questo. Però quale la sua vecchia campagna elettorale. Mia però elettorale. Secondo me questo è un indizio, questo è un indizio. L'anima rocchettara di Motti alla fine propende a sinistra, propende più a sinistra. Vabbè, in quelle terre dove vive. Ma sai che io, vivo in una città... A contatto con i comunisti da sempre, diciamo la verità. Stretto contatto con la sinistra, io ci sono vissuto, i miei genitori hanno sempre votato a sinistra, io, scoop, da ragazzo ero iscritto alla Federazione Giovanile Comunista Italiana. Questo qua... Le mie radici storiche sono quelle. Per cui questo avvicinamento di Casini a Bersani le fa molto piacere, dica la verità. No, la verità è che io sono stato abituato a comprendere le ragioni di tutti. A volte comprendere le ragioni di tutti non è possibile. Io sono stato iscritto alla FIGC, mi fa molto piacere che Casini si sia avvicinato a Bersani. Mi fa molto piacere che ci siano persone che quando votano le persone e non la bandiera. Benissimo, tra Bersani e Berlusconi, lei se dovesse decidere con chi andare, con chi andrebbe? Non ha dubbi. Oggi come oggi credo che Berlusconi abbia... No, tra Bersani e Berlusconi, però mi dia una risposta, almeno tra Bersani e Berlusconi me lo deve dire. Lavorerei molto volentieri su un progetto imprenditoriale con Berlusconi, che è sempre stato il mio punto di riferimento imprenditoriale. E invece politicamente con Bersani? Politicamente starei molto volentieri in un governo che lavori nell'interesse dei cittadini. Ma tu... È perfetto per Casini. È perfetto per Casini. Senza raccontare frottole, che di solito sono quelle che raccontano i politici. Come direbbe Vasco Rossi? Non so cosa direbbe Vasco Rossi. È meglio? No. Ma Vasco Rossi è grande amico di Bersani. Però credo che questo sia una cosa che dovete chiedere a lui, non a me. Vasco Rossi. Credo voglia fare ancora buona musica per un bel po' di tempo e non si preoccupi. Vasco Rossi probabilmente quando ha scritto la canzone, già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua. Pensava a Casini che sopravvive a tutte le stagioni politiche, no? Com'è che fa la canzone? Che non c'è niente. Ascoltate, che visto che abbiamo parlato, di musica e di temi importanti, posso invitarvi in un bellissimo paesino di collina che è Roncolo di Quattro Castella, sabato 30, cioè sabato, questo sabato qui. Perché facciamo un bel concerto, anzi una vera e propria maratona musicale per raccogliere fondi per le famiglie dei terremotati del comune di Cavezzo. Questo è interessante, ne parliamo in privato. Grazie. Invitati. Traffico, siamo invitati, grazie Traffico. Siamo qui, Valentino da Treviso, buonasera, 800 24 00 24. Buonasera. Dica. mitici, volevo mettermi a disposizione di Parenzo come tassista privato per fare un'operazione seria, portarlo su tre città, dalla stazione dei treni alla piazza dei signori, Mestre, Padova e Treviso. Ma io a Padova sono nato e vissuto. Ma lo sa, conosce benissimo Treviso terre, anche, Valentino. Conosco benissimo. Conosce benissimo, però non fa mai nessun riferimento sulle tre differenze. A parte che se conosce benissimo sa che a Mestre la piazza signori non c'è, per esempio, c'è piazza Ferretto. Piazza Ferretto, certo. Ovviamente sono dei derelitti, quindi mentre piazza dei signori c'è a Treviso, dove hanno girato il film Signore e Signori. Nessun problema, Cruciani, che problema vuoi che ci sia? La differenza di fare una passeggiata dalla stazione dei treni e andare in piazza Signori a Padova e farlo a Treviso. E cosa vuol dire? E si vede la differenza della città. Ma che cosa? Cioè che Treviso è un'altra, storia, lei dice, di in amministrazione. In tutto, Parenzo, come che differenza c'è? A lei, se lo fa veramente a piedi, da piazza... Beh, da piazza è un filino più grande, Valentino... È un filino più grande. L'ho Padova, fatto eh. spesso a Padova a piedi. Non cosa c'è? Che cosa sta? Ma orde di immigrati, ma che dice? Cosa vuole dire? A Padova il primo italiano lo trovi dopo il ponte. Il primo? Italiano. Il primo italiano a Padova lo trovi dopo il ponte che porta in piazza. Dov'è lei adesso? No, ma cosa c'è da l'ambulanza? No, in questo caso non c'è ambulanza. Ma come? Ma perché sta dicendo? Sta descrivendo una delle città che sono come in balia di orde di immigrati. Ma di che cosa sta parlando? Ma io, ma dove vive? L'ho vissuta molto più di là, io ho abitato 10 anni ma e ovviamente me ne sono andato, ho abitato a Mestre. E me cosa ne sono succede andato. Se ci sono degli immigrati e lei passeggia? Cioè è andato dove ci sono meno immigrati? Non è il discorso degli immigrati, non è solo un discorso di immigrati, è un discorso generale di come vengono amministrate le città. Sono due città abbandonate, Mestre e Padova, mentre a Treviso sono attenti, a Treviso sono attenti a tutto. Bene, grazie Valentino. No, comunque questa testimonianza è da prendere in considerazione. Massimo da Taranto, buonasera. Sulla base di che cosa? Sì, perché ciao, buonasera. Sto ascoltando la trasmissione alla radio mentre sono in viaggio. Beh, sì, certo, alla radio mentre in viaggio mi pare normale. Non ho capito? No, niente, dica, vada pure. No, io volevo dire soltanto una cosa, riallacciandomi al discorso che ho sentito prima del signore che si lamentava degli omosessuali. Premesso che io sono una persona, un ingegnere, ho delle vedute molto ampie, ho avuto tante esperienze, quindi non ho problemi in questo senso, però dico che comunque c'è bisogno di democrazia da ambo le parti. In che come senso, noi, scusi? Magari abbiamo un'apertura verso gli omosessuali, è giusto pure che chi non la abbia possa avere una chiusura, e quindi la democrazia deve essere rispettata. Beh, Massimo, mi sembra che sia ampiamente rispettata, perché tutti gli anti-gay del mondo possono parlare liberamente, in particolar modo qui alla Zanzara, per cui di che parliamo? No, parliamo del fatto che chi non ha piacere a vedere certe, diciamo, espressioni della vita, dell'idea omosessuale. Vabbè, se ne faccio una ragione. E il mondo è pieno di froci. Lo volete capire o no? Che è pieno di froci? Il mondo è pieno di froci. Ma perché dice così? Lo volete capire? Dovete farvene una ragione. Il mondo è pieno di froci. Ma chi se ne frega? Massimo, se ne faccio una ragione. Il mondo è pieno di froci. Io lo dico come la parola frociola è stata, come dire, già ampiamente sdoganata, per cui lo dico con il massimo dell'affetto. Poi questa trasmissione, sapete, ormai è diventata un paladino dei matrimoni gay e tutto, per cui sicuramente non siamo attaccabili da questo punto di vista. Massimo, se ne faccio una ragione, il mondo è pieno di froci. No, ma io ne ho fatte, però le ho detto un'altra allora, cosa. Punto, se e basta. Vedesse con suo figlio nella mano un uomo e una donna che fanno l'amore in una panchina in una piazza davanti a tutti, completamente nudi, ma dove vuol dire il paradosso? Ma dove posso? Ma quelli che fanno l'amore nudi sulla panchina vanno presi e arrestati, Massimo. Ma dove l'ha vista sta roba? Ok, vabbè, allora le faccio una domanda personale. Ma posso domandarle qualcosa oppure sulla sfera personale? E mi domandi qualcosa sulla sfera personale? Mi domandi qualcosa? Posso? Sì, ma si sbrighi però. Ma non è che lei è Parenzo? Forse pure voi siete un po'. Che vuole fare? Guardi, ci siamo ricoperti di baci, abbiamo fatto all'amore allora più volte. Vabbè, ma non c'è niente di male, è bello fare outing. Infatti abbiamo fatto coming out. Ma che dice? Evviva i fraci! Evviva i fraci! Ma questo è da ricordare. Guarda che 20:55 stia Vittorio da Pavia. Ma fammi che sentire Vittorio questo da Pavia. È da ricovero immediato. Vittorio. Ma di mettergli proprio ma non ti scandalizzare. Ma da mettergli la flebo subito nel braccio proprio. Vittorio da Pavia, dica. Sì, pronto, buonasera. Buonasera, vada. Io volevo semplicemente dire che mi ha veramente stomacato il modo con cui prima rispondete alla persona che parla degli omosessuali che non li vuol vedere, sì, a fianco a lui, sì, e dall'altra parte come siete cinici con chi parla della distruzione di animali in Ucraina. Che ma non siamo cinici, no, io ho detto che non me lo so. No, ma mi scusi, è una cosa veramente allucinante. Ma io non ho detto che non me ne può fregare di meno, ho detto che in questo momento il mio cervello è proprio misura. Ma che non può rispondere che non gliene può fregare di meno per una cosa del genere. Ma non ho detto ho detto che non me ne può fregare di meno fino al primo di luglio, dal primo di luglio, dal primo luglio me ne interesserà. Ma no, ma non sia. Ma allora lì è ipocrisia, su. Ma lo sa che lo sa anche lei che il mondo no, è pieno di froci, va sì. Bene, Vittorio. Vittorio. Vittorio, sì. Lo sa anche lei che il mondo è pieno di froci, sì. Ma quello lo so, ma a me stanno pure bene, però quello che non ammetto, come non ammetto per gli eterosessuali, sì, che si sbacino in modo è pieno di froci. Il bacio sulle labbra può andar bene per uno o per l'altro, non è un problema quello. L'abbraccio, Vittorio, la bacio anche. La bacio sulle labbra. Co-co-co. Attento al DDT, sai? Radio 24. La passione si sente.